come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Non era un martello ma un piccone, perché bisogna ricordare le persone che hanno fatto la storia del nostro paese in maniera tetra, o magari rimandando in onda vecchi discorsi, oppure in tono sommesso. Certo, è una giornata triste sicuramente per la nostra Repubblica, non per quattro deficienti che scrivono delle stupidaggini su internet contro Cossiga, e però voglio ricordare in apertura della Zanzara di questa sera Cossiga soprattutto per la sua mania per la tecnologia. Era fissato con i telefonini, con l'elettricità, per esempio. Sentitelo intervistato da un radioamatore, era anche un radioamatore con una sua sigla. Sentite. Io ho avuto sempre una grande passione per l'elettricità. Ho iniziato costruendo con sfortuna una sedia elettrica per gatti, ma quando ci ho messo dentro il gatto, essendo la corrente allora a 110 volt, è saltato l'impianto di tutto al palazzo di mio nonno e il gatto non è morto. E per fortuna, perché sennò qui avremo telefonate di amanti dei gatti. Ancora Cossiga, radio amatore. Poi ho fatto il radioascoltatore, poi dopo uno sfortunato incidente stradale che mi dava molti dolori ai nervi, ho cominciato a smanettare durante la notte e ho dovuto sospendere quando sono stato nominato ministro dell'interno, perché mi hanno detto che non era prudente. Fantastico. E poi la sua mania per i telefonini, aveva subito quelli più attuali, quelli che uscivano. Le aveva prima degli altri. Sentitelo qui sull'iPhone, sull'Android, eccezionale. Mi hanno regalato da poco tempo un telefonino che sarebbe la risposta di Google a Apple. Cioè, io ho l'iPhone, veramente ne ho 5. E questo è sulla piattaforma Android, si chiama. Bene, con questo telefonino io so esattamente dove mi trovo. E zoomando posso vedere anche le macchine che sono in strada. Collegamento con gli Stati Uniti per uno che Cossiga lo conosce benissimo e che abbiamo ospitato pochi giorni fa qui, facendo gli auguri a Cossiga. È andata come è andata, ma non c'è tempo per le lacrime. Paolo Guzzanti, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Sì, non c'è tempo per le lacrime. Comunque io personalmente sono dispiaciuto, credo un po' come tutti, no, io certo, perdo un amico, certo. Ma certamente il paese perde anche un grande rappresentante, uno strano italiano bizzarro come non ce ne sono altri. Perché parli di strano italiano? Ecco, strano italiano perché? Perché non era un italiano come gli altri, era un italiano completamente unico, irripetibile, non era un politico come gli altri politici, era un caso unico. Io infatti quando scrissi un libro su di lui lo chiamai Cossiga uomo solo, perché la sua solitudine e la sua unicità sono ciò che hanno fatto di lui un grande personaggio e non un mediocre politico. Chi è che si è inventato la parola picconatore, te lo ricordi? Sì, la inventò lui stesso, ma la inventò in occasione, appunto, quando io scrissi questo libro. Lui venne a Via Sicilia a Roma alla sede della Mondadori, il libro uscì con Mondadori, e venne alla presentazione, c'era allora una grande attenzione, quindi uno stuolo di reporter, fotografi e quant'altro, e lui fece un discorso in cui annunciò che da allora avrebbe picconato il sistema politico. E ancora, questa parola picconare non era mai stata usata, e l'idea del picconatore fu, devo dire, dal punto di vista mediatico, un successo enorme, successo negativo, perché tutti quanti lo accusarono di essere un picconatore, lo accusarono di attaccare, di aggredire il sistema. Ma Cossiga usava questa metafora di quello che prende a picconate delle macerie per liberare la strada, sì, perché secondo lui il sistema politico italiano, e aveva perfettamente ragione, era già morto, ma non lo sapeva, era già morto, cioè ai tempi in cui la guerra fredda veniva meno perché era caduta l'Unione Sovietica, e quindi tutti i partiti della Prima Repubblica non avevano più ragion d'essere, come poi si è visto, e lui lo diceva, e dicendolo naturalmente non si faceva degli amici, ma certo, si faceva degli nemici. Era il 1990. Luca Telese in collegamento con noi. Ciao Luca. Luca, ci sei o no? Non c'è, vabbè, ma adesso ci ricolleghiamo, non c'è problema. 1990, dicevo, la parola picconatore. Cossiga, in un libro scritto con Sabelli Fioretti l'anno scorso, anzi in un'intervista di Sabelli Fioretti l'anno scorso, diceva di Guzzanti: era il più simpatico dei giornalisti che mi seguivano, siamo diventati amici, faceva le imitazioni, anche la mia. Quando tutti dicevano che ero matto, lui disse: Cossiga parla un linguaggio diverso dagli altri. Mi aveva sentito parlare e mi aveva capito, e scrisse il libro Cossiga, un uomo solo. Ma è vero che facevi anche l'imitazione di Cossiga? Beh, sarebbe veramente curioso che mi fossi esentato da un tale dovere civile, prima di tutto, sì. No, non era un... era un'imitazione, la mia inizialmente... No Paolo, scusami, ero un po' distratto, non è blasfemo oggi, il giorno della morte di Cossiga, far risentire la tua imitazione di Cossiga, perché comunque penso, no, che lui... io gliela facevo, non l'ho mai fatta. Esatto, appunto. Gliela facevo al telefono e dico, vedi Francesco, tu sei un sardo testardo, come tutti quanti sardi testardi ti rifiuti di capire la realtà. Lui dice, ma hai perfettamente ragione, così. E ragionavamo con questo, io naturalmente sono un mediocre sardo, chiedo scusa a tutti gli amici sardi che ci stanno ascoltando, i quali gli si accapponerà la pelle come quando io sento i milanesi che fanno l'imitazione del romanesco, insomma. Però a lui piaceva il fatto non tanto che io lo imitassi foneticamente, ma che io avessi capito il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi e i suoi significati. Dicevano che era matto all'epoca, no? Sì, come no. Difatti il nostro rapporto nacque per questo, perché io per caso fui mandato Mauro, attuale direttore di Repubblica, ma allora era il condirettore della Stampa, io ero un giornalista della Stampa, allora direttore della Stampa era Paolo Mieli, che poi andò al Corriere della Sera, e zio Mauro mi chiese di andare a Gela in Sicilia, era mi pare il 4 gennaio del 1991, all'apertura dell'anno giudiziario, perché si dava per scontato che Cossiga avrebbe fatto il matto, già faceva il matto. Io andai lì, ci fu una scena molto divertente, perché la sera prima era andata in onda una mia intervista a Catherine Spack in cui raccontavo che Sabina, mia figlia, faceva l'attrice teatrale. Allora lui mi vide, mi riconobbe dalla televisione, puntò su di me, mi acchiappò per il braccio e disse: non sapevo che sua figlia fosse un'attrice teatrale. E io dissi: sì, infatti adesso, allora Sabina faceva... E mi tenne con sé, aggrappato in questa folla tremenda col sindaco di Gela che era stato estromesso e che si aggrappò alla mia giacca e me la squarciò in due lasciandomi quasi nudo, e assistetti a questa scena in cui lui, Cossiga, fece un discorso fortemente polemico nei confronti di Giorgio Bocca, che aveva attaccato l'arma dei carabinieri per la questione dell'auto, sì, bianca, sì. Vabbè, insomma, storie varie. E io scrissi un articolo in cui dissi: ma quest'uomo non è affatto matto, è un uomo che ha delle rimostranze da fare, un uomo anche irato, ma perfettamente nella sua pienezza, compos sui, come si dice in latino. Lui ti chiamò? Lui mi chiamò la mattina dopo alle 6:30, non fece un commento sull'articolo, ma mi inflisse all'alba, io ero ancora rintronato dal sonno, mi inflisse all'alba una bellissima lezione sul liberalismo cattolico. Posso immaginare alle 6:30 di mattina, abbiamo il traffico, torniamo subito. Intanto alcune rivelazioni già su queste lettere di Cossiga alle alte cariche dello Stato. In una lettera a Schifani così, che avrebbe scritto: "Iddio protegga l'Italia", ma ci sarà altro. Traffico Telese, sei arrivato finalmente, ecco. Dov'eri? Dov'eri? Hai sentito l'imitazione di Guzzanti di Cossiga? È bellissima. Sì. E va bene anche oggi, in questo giorno di tragedia, secondo me, perché lui questa imitazione gliela faceva al telefono quando si sentivano. Famoso cretino di Pietro, io gli voglio bene, sa perché gli voglio bene? Perché è cretino, uno che magistrato si fa dare da uno che fa lavorare la moglie una Mercedes gratis, che si fa dare 100 milioni e quando arriva l'ispettore del ministero le restituisce in fretta una scatola di scarpe, come lo volete dire, un ladro, un cretino, ma io voglio bene i cretini. A Di Pietro voglio molto bene, siccome è sempre più cretino, adesso sta diventando presuntuoso però. Ma lo sa che siamo arrivati al punto che Di Pietro crede di essere un uomo politico? Beh, sono un po' cattivo, lo devo dire, perché ho mandato in onda questa performance di Cossiga recentissima su Di Pietro, per dire che insomma le picconate poi sono rimaste e sono continuate soprattutto nell'ultimo periodo. La lettera alle alte cariche dello Stato dovrebbe essere uguale: fu per me un onore grande servire la Repubblica a cui sempre sono stato fedele e sempre tenni per fermo onorare la nazione ed amare la patria, eccetera eccetera, poi le leggeremo tutte. Luca, tu la sapevi questa passione di Cossiga per le cose tecnologiche, no? Io mi ricordo che ogni volta che si andava a casa sua c'era un nuovo cellulare sul tavolo. Allora gli dicevo: "Scusi presidente, ma come fa a comprarne così tanti?" Allora lui spiegava con molto orgoglio, non so se fosse vero, che erano le stesse ditte che glieli davano per testarli. È vero, è così. È così. e poi c'era non solo quello, c'era il baracchino da radioamatore a cui teneva moltissimo, c'erano qualunque tipo di ritrovato, tecnologia, insomma era una passione, una fissazione, ma anche una voglia di esibire questa sua capacità di essere un uomo che era nato 80 anni fa, ma che stava in questo secolo molto più di, tra virgolette, noi giovani. Assolutamente. Voglio chiedere a Guzzanti una cosa. Molti dicono, vabbè, insomma, Cossiga si porta via con la sua morte tanti segreti della storia d'Italia. Questo lo si può dire naturalmente di tanti politici che hanno avuto ruoli così numerosi nella storia della Repubblica. Tu che dici su questo? Io penso che lui si sia portato via un unico segreto, ed è la vera storia della trattativa per liberare Moro, che poi fallì perché Cossiga, secondo me, fu tradito da coloro che avevano... Io non parlo di brigatisti rossi, che considero i manovali di questa operazione. Cossiga, quando fu annunciata la morte di Moro, ebbe uno shock molto violento, non si limitò ad essere addolorato, cioè istantaneamente i capelli gli diventarono bianchi, il suo corpo si coprì di vitiligine, che è una malattia della pelle di natura psicosomatica, quindi che deriva da uno shock emotivo, e ebbe quindi un trauma che non si spiega solo col fatto che da 30 giorni la vita di Moro era in bilico, non si sapeva, tra l'altro lui faceva parte del Partito della Fermezza, il Partito della Fermezza dava per scontato che Moro sarebbe stato probabilmente assassinato. Mm. Allora poi quando nel 2005, fine del 2005, durante una rogatoria internazionale a Budapest, ho scoperto, perché la Procura Generale di Budapest ci mostrò i documenti, che parte dei brigatisti rossi erano effettivamente uomini legati al KGB, ricordo Antonio Savasta, ma parecchi altri, e allora mi sono fatto un'idea più precisa del rapimento Moro e anche del fatto che durante il rapimento Moro sparirono dalla cassaforte del ministro della difesa, queste sono cose note uscite sui giornali e non sto rivelando nulla di segretissimo, anzi sono stati fatti inutili titoloni sul Corriere della Sera che non hanno portato a nulla, ma insomma sparirono documenti segretissimi della difesa italiana durante il rapimento Moro, che ricomparvero qualche tempo dopo la morte di Moro. Allora io ho sempre immaginato che questi fatti fra di loro formano una trama, e suppongo che Cossiga, insieme a qualcun altro, e so a chi pensare ma non lo dico, abbia tentato in extremis di salvare Moro dando via dei materiali che insieme a chi? Perché non lo vuoi dire, Paolo? Perché non lo puoi dire? Ma io penso che una persona che dovrebbe sapere la verità è Giulio Andreotti, allora lo dico. Penso che se le cose andarono così, Giulio Andreotti dovrebbe essere consapevole e forse una sua opinione al riguardo sarebbe importante. Cioè tu stai dicendo sostanzialmente che in realtà Cossiga, che è stato sempre considerato l'uomo della fermezza, in realtà cercò invece, anche con operazioni diciamo discutibili tra virgolette, come operazioni temerarie, di salvare la vita di Moro. Io lo penso, questo è un fatto confermato poi anche dalla ira che Cossiga mostrava verso chiunque mettesse in dubbio il carattere totalmente italiano delle Brigate Rosse e si permettesse di supporre che c'era dell'altro dietro. Allora Cossiga diventava un po' matto. Dimmi Luca. Ma mi sembra che questa sia una cosa un po' temeraria, perché proprio quell'imbiancamento dei capelli Cossiga lo faceva risalire al suo conflitto interiore, cioè non aver potuto salvare Moro che era il suo maestro. Io lo intervistai nel 98 per Magazine, a 20 anni dal rapimento, sì, e credo che lui della fermezza fosse veramente convinto. Lo sapeva e lo diceva conoscendo a memoria le lettere, soprattutto quella che diceva come un anatema: il mio sangue ricadrà su di voi. E Cossiga non credo che su questo avrebbe mentito. Poi se Guzzanti altre... No vabbè, ma qui... naturalmente poi ci sarà tempo per fare tutto questo tipo di analisi. Il fatto che in una di queste lettere, in tutte le lettere di alte cariche, Guzzanti, Cossiga dica molto esplicitamente: le mie esequie devono avere carattere del tutto privato, con esclusione di ogni pubblica onoranza e senza la partecipazione di alcuna autorità. Una cosa molto dura in apparenza, no? Beh sì, lui in questo lo riconosco perfettamente, non mi sorprende affatto, direi che mi avrebbe sorpreso il contrario. Tieni conto che il suo ultimo libro è con l'editore Alberti, che non è quello citato prima con Sabelli Fioretti, si chiama, e il titolo l'ho scelto Cossiga, Fotti il potere. Fotti il potere, sì. Fotti il potere, editore Alberti, che tra l'altro è lo stesso mio editore. E in questo libro lui mostra tutto il suo disprezzo nei confronti del mondo politico attuale e del mondo ufficiale di cui lui si è sforzato per decenni, non dico di guidarlo, ma di dare le linee essenziali per uscire da una crisi in cui l'Italia entrò appunto 20 anni fa e da cui non soltanto non è uscita, ma nella quale si sta impantanando. Ecco, ma il disprezzo, lui salvava qualcuno in questo disprezzo che aveva, perché sicuramente pensava che gli uomini politici adesso non fossero all'altezza di quelli della Prima Repubblica. Per esempio, il rapporto con Berlusconi, Guzzanti, qual è stato? Il rapporto con Berlusconi. Dunque, il rapporto con Berlusconi, lui voleva fare il padre nobile di Berlusconi e Berlusconi non glielo ha fatto fare. Questo appare evidente da una confidenza, anzi una notizia che mi ha dato Carlo Scognamiglio, che è stato presidente del Senato, diciamo, di Berlusconi e poi ministro della difesa di D'Alema, quando mi ha raccontato, io l'ho messo anche nel mio libro, che Agnelli ebbe l'idea di promuovere una cena per spingere Berlusconi ad entrare in politica nell'aprile del 93. A questa cena parteciparono Cossiga, Scognamiglio Pasini, Rossignolo per la Fiat, Altissimo che allora era il segretario del Partito Liberale, e insomma cercarono di convincere Berlusconi, il quale era molto riluttante e non ne voleva sapere perché diceva che aveva troppi problemi economici e anche giudiziari. Poi invece lo fece questo salto e Berlusconi si trovò con questo Cossiga che voleva diventare il suo mentore, il suo, un po' quello che poi Cossiga stesso ha fatto, tentato di fare con D'Alema. E dato il caratterino di Berlusconi, naturalmente questo non si è avverato, per cui ogni tanto Cossiga attaccava e ha attaccato pesantemente Berlusconi. Però lo ha sostenuto anche di recente. Lo ha sempre sostenuto. Sì. Poi diciamo la sommatoria finale è che lui è stato un sostenitore di Berlusconi, trovando che era la soluzione meno peggiore, mi si perdoni la sgrammaticatura, ma meno peggiore di tutte le altre. Però lui voleva anche che si guidasse, lui Cossiga, il processo per cui l'Italia sta andando verso un regime di fatto presidenzialista, e facendo in modo che non andasse verso un presidenzialismo abusivo come quello attuale, ma fosse invece fatta una riforma costituzionale. Sì, ma poi voglio dire una cosa, io credo che in quella frase che abbiamo prima fatto ascoltare su Di Pietro in realtà si sintetizzasse tutto il, non dico il disprezzo, magari c'era anche disprezzo, insomma la scarsa considerazione che Cossiga aveva per i politici della Seconda Repubblica. Luca, vi faccio ascoltare salutando Guzzanti dagli Stati Uniti, perché so che lo stanno tartassando con le interviste, con le truppe della RAI, presto, eccetera. Grazie. Ci sentiamo presto, grazie Paolo. Ti faccio sentire, Luca, un inno italiano cantato da Cossiga, perché si può dire tutto, ma sicuramente il senso dello Stato, il patriottismo, no, la bandiera, queste cose Cossiga ce l'aveva, Telese, su questo non c'è dubbio. Senti che inno italiano cantato da Cossiga. L'Italia, l'Italia se desta. Adesso c'è una frase che io cancellerei. Dell'Elmo, di Scipio, se ci dà la testa, dove la vittoria le porga la chioma che cadrà. Siamo qui 18:32, 800 24 0024, questa è la Zanzara, sentiamo i titoli del TG2. Francesco Cossiga è morto, aveva 82 anni, domani la camera ardente al Gemelli, i funerali in forma privata nel paesino dei genitori in Sardegna, fu presidente della Repubblica dall'85 al 92, unanime il cordoglio del mondo politico. Il ricordo di Napolitano, combattivo protagonista di stagioni tra le più intense e drammatiche della nostra storia nazionale. Berlusconi, piango un amico carissimo. Il cordoglio del Papa, 4 lettere sigillate lasciate da Cossiga, dirette al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Senato e Camera. È stato un onore per me, scrive, servire la patria. E anche Studio Aperto, primo titolo, naturalmente, forse unico sulla morte di Cossiga. Addio picconatore, Francesco Cossiga è morto, lo statista democristiano aveva 82 anni, più volte ministro, capo del governo e presidente della Repubblica per mezzo secolo, è stato uno dei principali protagonisti della politica italiana. Il suo testamento in 4 lettere indirizzate alle alte cariche dello Stato. Il cordoglio della politica e delle istituzioni, commosso ricordo di Napolitano, Berlusconi, perdo un amico, il Papa si raccoglie in preghiera, domani nella chiesa del Policlinico Gemelli, la camera ardente, giovedì, funerali in forma privata nella sua Sardegna. È in fin di vita a Pordenone la 38enne, trovata con un cacciavite conficcato in testa, la soccorsa un vicino attirato dai lamenti, secondo le telecamere di sorveglianza nell'appartamento non è entrato nessuno ed è giallo. Un po' di teatrino politico, teatrino della politica, con Villari, Riccardo Villari, senatore del gruppo misto, prossimo al gruppo del PDL, ricordate, già dell'Udeur, poi successivamente Margherita, e poi PD, e poi MPA, e adesso l'approdo al PDL, Riccardo Villari, il quale è medico, il quale ha fatto una dieta in cui ha perso di recente 15 kg, sentitelo, ieri alla Zanzara. Io sono stato eletto nel 2001 parlamentare, diciamo, come Ulivo. Ulivo quota Udeur, diciamo così. Poi l'Udeur è andato nella Margherita. E io sono passato nella Margherita col mio partito. La Margherita è confluita nel PD e io sono confluito insieme al mio partito. Quindi nessun cambio. Gruppo misto 8-9 mesi. Dopodiché, in campagna elettorale regionale, per sostenere Caldoro, Lombardo mi ha dato la possibilità di costruire la lista, diciamo, dell'MPA, quindi è stato un accordo, diciamo, più elettorale, un'esperienza più. Se io poi, finita l'esperienza elettorale, sono rimasto nel gruppo misto. E la parabola politica di Villari è raccontata proprio dallo stesso Villari, senza reticenze, così, in maniera trasparente, Udeur, Margherita, Partito Democratico, MPA, gruppo misto e adesso da settembre PDL. la scelta di campo è stata fatta quando io alle regionali ho votato il candidato del centrodestra, che è Caldoro, punto. Adesso alla ripresa dell'attività parlamentare concluderemo questo ragionamento che stiamo facendo. Comunque a settembre aderisce al gruppo del PDL, questa è la sostanza. Probabilmente quella sarà la parabola. E ancora Villari, sentitelo. Io formalmente sono ancora un senatore del gruppo misto, nel quale, lo ricordo, fui messo mano militari, nel senso che io fui espulso dal gruppo del PD, e contro quella espulsione, allora, parliamo di più di un anno fa, mi sono opposto a quella espulsione, fu un atto arbitrario e ingiusto. Ebbene, ce l'abbiamo fatta a sentire anche Villari, che ieri era in collegamento da Capri. Camillo, provincia di Napoli, 800 24 00 24, prego. Sì, buonasera dottor Cruciani, a lei e anche al dottor Telese. Io dovevo parlare ieri, poi insomma non c'è stato tempo. Non c'è problema, dica pure. Niente, a parte il fatto insomma siamo vicini, voglio dire, alla morte del senatore Cossiga, del presidente Cossiga, voglio dire, la partecipazione penso che tutti gli italiani dovrebbero avere. Sì, però se ci mettiamo a fare le partecipazioni in diretta non la finiamo più, eh. No, vabbè, no, chiudo qua e basta. Voglio dire, niente, io sul fatto di Napolitano, in merito alla sua esternazione che aveva fatto sulla intervista del senatore Bianconi, io ritengo che Napolitano abbia fatto bene a dirla in modo perentorio, aveva fatto chiarezza, perché per togliere ogni dubbio da mezzo, nel senso chi è che veramente ha la responsabilità di sciogliere le camere o meno. Poi la questione in questo, la mia idea che mi sono fatta è questa, è che il centrodestra, la PDL, non è che ha paura di un nuovo governo. Lui fondamentalmente, la preoccupazione del centrodestra è che un nuovo governo possa cambiare la legge elettorale, questa è la cosa fondamentale, e siccome di questa legge elettorale nessuno ne parla bene, io ritengo che questa dovrebbe essere comunque un atto di responsabilità anche da parte del centrodestra per cambiare questa legge elettorale. Ma il centrodestra non la vuole cambiare la legge elettorale, cioè quello che rimane del centrodestra, diciamo. Quello che rimane non la vuole cambiare. Non la vuole cambiare, mi pare chiaro, l'ha sentito Bossi l'altro giorno. Ma l'ho cosa sentito ha detto. Bene, però il problema, ecco perché poi succede. Bossi dice questa legge elettorale è perfetta, però io, Camillo, però vorrei farla ragionare su una cosa. Sì. A me fanno impazzire quelli che dicono bisogna cambiare questa legge elettorale fa schifo. Ma io, guardi la legge elettorale, da che mondo è mondo, viene decisa dalle maggioranze. Sì. La maggior parte delle volte è così, dalle maggioranze. Però in Francia mi ricordo che cambiarono una legge elettorale, la maggioranza la cambiò, la volta dopo si andò alle elezioni e la stessa maggioranza che aveva cambiato la legge elettorale perse in maniera rovinosa. Questo è successo a metà degli anni Ottanta in Francia. In ogni caso è sempre espressione di una maggioranza in carica, non è sulla legge elettorale che si combatte una battaglia di fondo. Perché lei crede che il problema Fini non è un fatto legato alla legge elettorale? No, Fini naturalmente se fa un partito autonomo ha tutto l'interesse a cambiare la legge elettorale. Le dico il perché. Mi dica il perché, Camillo. Cioè, il problema è legato a questo, non crede che si può avere un'omogeneità di pensieri in tutto un partito. Oggi col fatto che si nominano i deputati, si nominano i senatori, queste persone sono solamente sudditi di chi li ha nominati. Sì, ma lasciamo perdere, perché invece nei collegi chi li mette? Nei collegi uninominali, sicuri, chi ce li mette? Chi ce li mette i candidati? Loro, però non è detto che vincono, perché poi loro si devono confrontare sul territorio, cose che oggi non esiste. Oggi si mettono Camillo, noi abbiamo che in certe circoscrizioni persone che sono di un'altra città, di un'altra regione, ma quello, lei ha la possibilità di non votarla quella lista se non le piace ma questa cosa qui. Ma la lista devo cambiare idea politica. No, cioè, non vota, oppure voti se le fa schifo. Se il centro-sinistra, questo ma è il problema. Ho capito, Camillo, se il centro-destra, facciamo un esempio, ha messo nella sua regione delle persone che non sono della sua regione, che a lei fanno schifo, lei quella lista non la vota. E non voto la lista, ma non è che devo cambiare ma cambiare, no, non vota quella lista, non idea. Vota nulla, non deve cambiare idea, perché deve cambiare idea? Lei la pensa sempre così, però io non voto la lista, non vado a votare. Vabbè. Cioè questo è il problema, oggi la storia è legata a questo, cioè, vabbè, adesso non impuntiamoci su questa cosa questo. Alla fine Fini, il comportamento di Fini e degli altri, voglio dire, discutibile o meno, non voglio entrare nel merito di questo, però è legato al fatto che non può essere che uno, i deputati o i senatori si dovevano svegliare la mattina, vedere che cosa aveva detto Berlusconi, farsi insomma una schiarita con gli occhi e affrontare i giornalisti per dire Berlusconi ha ragione a prescindere. Oggi il problema era legato a questo, cose che stanno continuando a fare. Vabbè. Mentre loro insomma alla fine dico, io voglio pensare con la mente mia, voglio discutere con il mio pensiero e voglio dire le cose come che stanno. Questo è stato il problema e questa ha determinato una rottura con tutto poi gli va bene, ho capito Camillo, grazie. Stefano da Genova, buonasera. Buonasera a tutti, io sono per sdrammatizzare. Allora, semplicemente basta. Non sdrammatizzare cosa, mi scusi Stefano? Tutte le chiacchiere che sento, no, da giorni, queste chiacchiere. Allora, dicevo del Presidente della Repubblica, no? Che semplicemente non serve più, non è mai servito, basta, la gente ha altri problemi. Vabbè Stefano, ho capito, che significa la gente ha altri problemi? Stiamo parlando da giorni, a parte oggi che è morto Cossiga e dunque un altro discorso, ma da giorni stiamo parlando del ruolo di Napolitano, cosa può dire, cosa non può dire. Lui, precisamente di lui. Mi dica qualcosa su Napolitano. Non arriva a fine mese, mi scusi Cruciani. Ma lasci perdere questa demagogia da quattro soldi, la gente non arriva a fine mese, è una stupidaggine questa, Stefano, su. Se lei fa la sorta ma non faccia la demagogia, la gente non arriva a fine mese, dunque non si può parlare di Napolitano, cosa c'entra? Ma io avrei preferito Telese in questo colloquio. Telese adesso lo recuperiamo, non si preoccupi. No, ma va bene, me lo saluta. Allora, mi dica una cosa sensata, Stefano. Prendi in considerazione quello che io dico, perché quello che io dico. Ma lì non ho capito, ma se lei non lo dice. La maggior parte degli italiani. Ecco, e quale sarebbe? Lei si fa l'interprete della maggior parte degli italiani. Noi la pensiamo così, basta con queste chiacchiere, sono tutti giochi perché voglio dare Stefano, potere, Stefano, se lei mi dice una cosa, se lei mi dice una cosa sensata, bene, se comincia a sproloquiare a destra e a manca. Dei capi dello Stato. Vabbè, arrivederci Stefano. Arrivederci Stefano. Che vogliamo fare? Ogni tanto qualche ascoltatore impazzisce, non ascolta, vogliamo essere liberi. Cosa significa vogliamo essere liberi, Stefano? Mi dica cosa significa vogliamo essere liberi. De Magistris, buonasera, mi aiuti lei? Buonasera. Mi aiuti lei? E in che cosa? No, sto scherzando. Dove si trova? Anche lei in vacanza? Io mi trovo a Soverato, sì. Soverato, vacanza? Beh, d'altronde... Oggi sì. È 17 agosto, se non si va in vacanza adesso, quando? Oggi sono in vacanza. Soverato, in Calabria dunque? In Calabria, sì, provincia di Catanzaro, vicino sul mare. Si ricorda dei mitici tempi di Catanzaro, lo sa una volta De Magistris, se noi ci siamo conosciuti, lei non se lo ricorda perché era un giovane magistrato, io feci un'inchiesta sulla questione degli avvocati, della trasmigrazione degli avvocati a Catanzaro. E mi ricordo che andai al Palazzo di Giustizia a cercare qualche magistrato che si occupava di questa cosa, venivo da Roma, ero un ragazzino, eccetera, la incrociai, lei fu gentile, mi concesse qualche minuto, perché c'era un'inchiesta che si era aperta all'epoca, appena aperta, no? Se lo ricorda, De Magistris? La feci io quell'inchiesta. La fece lei, sì, sì. Poi come? Sì, me la ricordo perfettamente, parliamo del... 97-98. Sì, esattamente. Ma poi questa storia della trasmigrazione, poi lei andò via da Catanzaro, credo, no? Andai via e poi la ereditò una collega, ma è una vicenda incredibile perché c'era veramente una trasmigrazione, una cosa di pazzesca. Persone su Catanzaro. Tipo la Gelmini a Reggio Calabria, esatto, più o meno sì, quella cosa là. Andavano tutti dal nord, non solo dal nord, anche da Roma, nei posti in cui era più difficile diventare avvocato, boom, andavano a Catanzaro e c'era un numero spropositato di persone. C'era una percentuale di promossi, insomma, intorno al 98-99%, percentuali bulgare, diciamo. A un certo punto io feci finta di essere un praticante, andai in uno studio che avevo contattato prima e mi dissero, beh, noi abbiamo tutto a disposizione, la residenza, il posto dove lei doveva prendere... No, doveva fare il tirocinio, che poi in realtà non c'era il tirocinio, non avveniva, no? Era una non fine. Avveniva, no, infatti. Bei tempi, no, quelli. Era un sistema che creava poi dei rapporti di potere, che appunto venivano personaggi importanti, parenti di politici, magistrati, di funzionari dello Stato, quindi poi si creavano degli scambi con gli avvocati del posto che poi garantivano tutto questo che serviva per l'esame. C'era un indotto economico anche non da poco, perché mi ricordo che la gente stava lì perché bisognava un minimo frequentare poi, e dunque le persone andavano a dormire in un albergo, c'erano segnalati proprio alberghi per i praticanti avvocati. Sì, esatto. Era una roba impressionante. Vabbè, insomma, De Magistris, sì, l'ho ricordato, immagino bei tempi per lei quando si facevano le inchieste a Catanzaro. Abbiamo il traffico, poi torno subito, perché io ricordo che Cossiga non è che col vostro partito proprio avesse un gran rapporto, perché adesso non le voglio far parlare male delle persone che sono appena decedute, Però se ha voglia un pensiero su quello che Cossiga pensa, perché Cossiga ce l'aveva tanto con Di Pietro, con l'Italia dei Valori, pure con lei mi ricordo una volta fu abbastanza spiccio nel giudicare in generale nei confronti della magistratura italiana, non è che avesse questa, di una parte della magistratura italiana, non è che avesse questi grandi rapporti, comunque non aveva una grande considerazione. Ricordo un'intemerata di Cossiga nei confronti di Trifuoggi, il magistrato che conduce ancora forse le inchieste su Del Turco in Calabria. Siamo qui in collegamento da Soverato, Luigi De Magistris, europarlamentare Italia dei Valori, da Roma Luca Telese. Ciao Luca, eccomi. Ti riprendo, eccoci qui. Senti, non è bello far parlare male di Cossiga da De Magistris, anche perché poi De Magistris non si sottoporrà a questa cosa qui. Che dici Luca? Aiutami tu. Non aveva un gran rapporto. È difficile per tutti parlare male di Cossiga oggi, perché Cossiga è stato un po' una sorta di specchio ustorio della Seconda Repubblica, era la coscienza della prima, aveva provato a ricostruire una Seconda Repubblica come voleva lui, con l'idea di portare D'Alema a Palazzo Chigi e chiudere la Guerra Fredda, e questo grande disegno gli si era rotto nelle mani, perché il materiale umano della Seconda Repubblica, come sappiamo, era di seconda qualità. Però ecco, con l'Italia dei Valori non aveva un gran rapporto, su questo non c'è dubbio. Sì, però se ti devo dire la verità, io oggi ho dovuto fare un articolo su Cossiga, ho scoperto che ovviamente, come tutti sanno, lui ha parlato bene di Di Pietro e male di Di Pietro, ha detto Berlusconi era l'anticristo, ha detto di D'Alema che era il miglior figo del Bigoncio e poi anche che era un piccolo comunista che non aveva capito, cioè ha detto molte cose, molte diverse fra loro, però quello che alla fine dovrebbe restare, tolto il fumo, è un po' un disegno che lui aveva e che non è riuscito a compiere, quello di essere il traghettatore dell'Italia verso il sistema dell'alternanza. Sai che cosa lo bloccò questo passaggio? Cosa? Berlusconi. Addirittura, beh, tu ce l'hai con Berlusconi, no, però adesso... No, non dico assolutamente nel senso che pensi tu, non in un senso politico, nel senso che per Cossiga, siccome la Guerra Fredda era stato il luogo della democrazia incompiuta, e addirittura questo lo viveva sulla sua carne, il rapporto difficile col cugino di secondo grado Berlinguer, ecco, per lui l'Italia diventava normale quando un ex comunista arrivava al Quirinale e a Palazzo. E dunque l'anticomunismo di Berlusconi gli andava di traverso. Quindi l'anticomunismo di Berlusconi ha cambiato questo disegno, in quel quadro lui era l'uomo che traghettava verso il bipolarismo e in questo non poteva essere che il sostenitore di una parte o dell'altra, e non era un ruolo che a lui piaceva, anche perché, ripeto, lui una costante era convinto che questa fosse una seconda repubblica di nani. Lui diceva questo sicuro, sì, certo, della grande DC, e per questo ritrovarmi con i sottopants, gli scarti di quella che lui aveva conosciuto da presidente, era veramente De Magistris. Ma perché ce l'aveva tanto con l'Italia dei Valori? Una volta disse addirittura che Di Pietro era un cretino, di lei disse che aveva gli occhi vuoti, che guarda nel nulla, che è malato di protagonismo. Perché ce l'aveva tanto con voi? Ma devo dire che è vero quello che dice Luca Telese, perché nei miei confronti poi in alcuni momenti ho avuto anche parole di apprezzamento. Io oggi vorrei invece fare questo tipo di riflessione, perché è un po' antipatico ragionare su una persona veramente appena deceduta, però mi colpisce questo dato: il presidente Cossiga, che secondo me non è stato un buon presidente, ecco, diciamo così, quindi che veniva criticato, anzi massacrato, secondo me in alcuni casi con attacchi assolutamente giustificati e giusti, da alcuni schieramenti politici, e nessuno gridava allo scandalo. Oggi, per esempio, al di là dei fatti odierni del PDL, mi riferisco quando qualcuno, come noi di Italia dei Valori, certe volte solleviamo per esempio alcune critiche al capo dello Stato, è quasi come dire si grida alla lesa maestà. Così che era uno che si sottoponeva alla critica, era uno molto duro che criticava, attaccò la magistratura all'epoca, ricordo il Consiglio Superiore della Magistratura, i giovani ragazzini, i giudici ragazzini negli inizi degli anni 90. Oggi l'ANM attacca l'ANM dicendo... Hai visto, però è stato abile, Giuseppe? Sì, sì. Ha girato la frittata ed è riuscito anche a parlare criticamente di Cossiga. No, vabbè, ma ha detto secondo lui non è stato un buon presidente, secondo De Magistris. L'ho detto, secondo me non è stato un buon presidente, così come non è stato un buon ministro dell'interno, tutt'altro, però gli devo riconoscere questo dato, che così come attaccava accettava le critiche, diciamo nessuna parte politica gridava allo scandalo. Ecco, appunto, riagganciandomi a questo, De Magistris, e riagganciandoci, andando sull'attualità. Perché lui disse... Sì. Che disse? Il periodo del Quirinale disse: era il momento della mia vita in cui mi sono annoiato di più, tranne gli ultimi sei mesi. Eh beh, ti credo, perché nel primo periodo praticamente era considerato una sorta di ectoplasma quasi inesistente. Ma di Pertini, c'era il vignettista che si chiamava Giuliano e lo raffigurava sempre con il naso lungo al Quirinale che non diceva una parola. Esatto, esatto. Forse fu anche una reazione a quei primi mesi, anzi ai primi anni lì al Quirinale, in cui era praticamente inesistente dal punto di vista delle esternazioni. De Magistris, vorrei capire da lei, quando un vice capogruppo del PDL, Caviera, abbiamo avuto il nostro ospite qui insieme a Telese, dice che il Presidente della Repubblica sta tradendo la Costituzione, al di là del merito, poi si è scatenato nei confronti di Bianconi, come lei sa, insomma, un attacco molto forte da parte dei giornali, di tutte le forze politiche, eccetera eccetera, lui ha fatto una mezza marcia indietro, anzi qui in realtà la Zanzara non l'ha fatta la marcia indietro, dicendo che il Presidente della Repubblica la sta facendo fuori dal vaso che è più grosso del suo. Lei lo difende allora, Bianconi, il diritto di Bianconi a criticare anche pesantemente il Presidente della Repubblica? Ma sono due cose diverse. Il diritto di critica nei confronti del Presidente della Repubblica, secondo me, è legittimo ed è sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che parla di manifestazione del pensiero libero. Guai allo Stato in cui il Papa e il Presidente della Repubblica non si possono criticare. Del resto noi di Italia dei Valori l'abbiamo criticato. Io per esempio ritengo che Napolitano abbia promulgato delle leggi manifestamente incostituzionali, che non lo doveva fare, ha sbagliato, ha consentito lo svuotamento della Costituzione, ma con questo non dico che debba essere messo sotto processo per attentato alla Costituzione repubblicana, così come credo che l'intervista all'Unità, francamente, Napolitano abbia detto assolutamente dell'ovvio, non ha detto nulla di eclatante, anzi dovrebbe, come ha detto anche Giorgio Bocca, magari dire qualcosina in più. Fino adesso è stato troppo silente, ha fatto passare troppe leggi, quindi se devo fare una critica a Napolitano è questa, non certo l'intervista all'Unità, dove ha detto sostanzialmente che cosa? Che in una Repubblica parlamentare il Presidente della Repubblica ha il diritto dovere di verificare, qualora va in crisi questo governo, se c'è una maggioranza alternativa in Parlamento. Dunque, secondo il suo punto di vista, Bianconi aveva diritto a dire quelle cose, o no? Ma io non condivido l'argomentazione di Bianconi. Bianconi ha detto le cose che io non condivido per nulla, l'ha dette anche in modo virulento, ha fatto dei ragionamenti che portavano alla messa in stato d'accusa del Presidente, e tutto questo non condivido. Condivido, dico anche io una cosa ovvia, che è assolutamente legittimo poter criticare il Presidente della Repubblica. Infatti io sono rimasto basito tutte le volte, e noi di Italia dei Valori ci è capitato di criticarlo, e tutto l'arco costituzionale scende a difesa del Capo dello Stato, quasi come se fosse lesa maestà criticare il Presidente della Repubblica. Ma questo, secondo lei, in testa Napolitano ha un'idea di fare un governo tecnico eccetera, oppure non ce l'ha? Napolitano ha detto chiaramente che lui non vuole andare allo scioglimento delle Camere, quindi ha detto che se Berlusconi a settembre non riesce a ricucire una sorta di maggioranza con i finiani o trovarne un'altra, lui a mio avviso sonderà se in Parlamento ci sta una maggioranza diversa, non vuole lo scioglimento delle Camere, questo mi sembra evidente. E questo lei come lo valuta? Questo è legittimo, anzi è doveroso, perché siamo in una repubblica parlamentare, così come trovo... Cioè, sarebbe legittimo, scusi, è legittimo cercare un'altra maggioranza all'interno di questo Parlamento, secondo voi? Secondo esattamente, lei? Esattamente, così come trovo legittimo politicamente allo stesso tempo che la Lega e Berlusconi, purché non minaccino l'uso delle armi o delle forche, possano andare in piazza. Io pure questo trovo francamente inaccettabile, che chi nel centro-sinistra gridi allo scandalo che Bossi dica: se si fa un'altra maggioranza noi organizziamo una manifestazione di piazza. È legittimo, purché lo faccia in modo pacifico. Nella politica non bisogna avere paura delle piazze. Molto chiaro. Telese, vogliamo chiedere una cosa a De Magistris, perché io non so se sia d'accordo con quello che ha detto il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, no Luca? Perché Di Pietro ha detto recentemente: beh, noi per qualche mese potremmo anche essere d'accordo con il governo tecnico, purché si facciano due cose: una nuova legge elettorale, che poi non si capisce quale dovrebbe essere questa legge elettorale, e poi una legge sull'informazione, anche qui insomma molto complicato fare una legge sull'informazione, sul conflitto di interessi. Telese, secondo te De Magistris è d'accordo con questa cosa o no? Ah, io penso che sì, io credo che sia d'accordo. Secondo me non è d'accordo. Non è d'accordo. Lo ha detto, ha detto un governo, una maggioranza possibile. Però chiediamolo a lui a questo punto. No, c'è, De Magistris, perché lei ha recentemente ha detto: no, governi tecnici non se ne parla, eccetera, sarebbe una cosa. Anche non... Di Pietro l'aveva detto, ha cambiato idea. Ha cambiato idea, ha detto che nel caso in cui, ma insomma, sono ipotesi di scuola, De Magistris, siete d'accordo? No, ma in realtà abbiamo detto in tempi diversi esattamente la stessa cosa. Cioè, entrambi riteniamo prioritario, in caso in cui, appunto, come è avvenuto, si è sfaldato il PDL, la cosa normale in politica è che si vada a votare. Non Non siamo però contrari, qualora si dovessero trovare i numeri per un governo di fedeltà costituzionale a termine che faccia quel paio di cose, che poi è più un ragionamento astratto, perché io credo che una maggioranza sulla legge elettorale e sul conflitto di interesse è molto difficile trovarla, ma se si trovasse, noi siamo, sia io che Di Pietro, sia Di Pietro che io, siamo d'accordo per un periodo breve di fare un'operazione di questo tipo che fermi anche l'operazione eversiva di Berlusconi contro la Costituzione. Senta, ma la sua legge elettorale preferita qual è, dato che siamo in cui ogni tanto ci tocca parlare di questi temi molto tecnici? La sua legge elettorale preferita qual è? Forse ultimamente, devo dire, mi sta sempre più convincendo che il bipolarismo in Italia sta fortemente in crisi e quindi un sistema alla tedesca con 4-5 partiti, uno sbarramento al 4-5% e un premio a chi ha la coalizione che vince potrebbe garantire stabilità e nello stesso tempo il pluralismo e il quadro politico. Ovviamente, però vi fanno fuori in questo caso, lei lo sa. No, ovviamente con il ritorno alle preferenze, no, con 4-5 formazioni politiche, credo l'Italia dei Valori si assesterebbe intorno al 10%. No, vi fanno fuori, non vi fanno fuori come, no, per carità, lo superereste sicuramente il 4%. Insomma, io vorrei capire da lei un'ipotesi in cui c'è il grande blocco delle opposizioni attuali. Lei lo vede difficile, impossibile, irrealizzabile? Cioè, lei con l'UDC, ce la farebbe la coalizione o no? Me lo dica sinceramente. La coalizione per la politica o per fermare per la politica, per fermare Berlusconi è un'ipotesi assurda, lei lo sa meglio di me. Assolutamente no, ma per questo le dico il fatto del proporzionale tedesco temperato, perché noi già abbiamo adesso perlomeno tre blocchi, abbiamo il PDL più Lega, il terzo polo di Fini, Casini e Rutelli, abbiamo un centro-sinistra con Italia dei Valori che si sta sempre più caratterizzando come una forza importante insieme a sinistra e Libertà di Vendola. Dobbiamo vedere il Partito Democratico. Io mi auguro che il Partito Democratico voglia costruire insieme a noi Sinistra e Libertà, la federazione della sinistra, uno schieramento di centro-sinistra. Se invece vuole andare col terzo polo, no, magari vuole andare con tutte e due. E con tutte e due secondo me non si può fare. Io sono contrario a un'alternativa politica con Fini e Casini. Ecco, Telese, questa è una bella cosa da dirimere prima o poi. Insomma, alla fine sto Partito Democratico, l'alleanza, con chi la deve fare? Da una parte, alla fine tenteranno di farla con tutte e due, credo, Luca. Guarda, io credo che il PD provi a mettere insieme tutto, però una cosa che non è stata ben sviscerata è che c'è una concorrenza diretta fra Di Pietro e i Finiani. Cioè, Di Pietro ha un grosso pezzo di elettorato di centrodestra che rompe con Di Pietro sulla legalità e credo che i Fini abbia una potenzialità di attrazione molto forte. È un concorrente, è un vostro concorrente Fini, De Magistris? Ma Telese dice una cosa giusta sul tema della legalità, può essere, anche se non dimentichiamoci che noi da anni facciamo un'opposizione dura e il tema della legalità è centrale, per Fini lo è. Comunque lo temete un po' dal punto di vista del consenso. Adesso devo dare la linea al giornale radio, ma se vuole ne riparliamo fra un po', anche perché lei ha detto il Partito Democratico pur di non votare farebbe un ribaltone con Totò Riina e il tronista Costantino, adesso addirittura, per carità, adesso è una battuta, un esempio, però insomma mi sembra esagerato. Siamo qui alle 19.16, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sentiamo i titoli del TG3. È morto Cossiga, fu il presidente picconatore, lascia 4 lettere alle alte cariche istituzionali. No a funerali di Stato, non voglio le autorità. Cossiga, una carriera tra luci e misteri, la tragedia Moro, i segreti di Gladio e di Giorgiana Masi, le picconate alla Prima Repubblica. Napolitano, Cossiga, combattivo protagonista di stagioni drammatiche. Berlusconi, mi mancherà, al TG3 le testimonianze di Pisano, D'Alema e Casini. Il PDL insiste, o accordo o voto, i governi tecnici sarebbero una manovra di palazzo, l'opposizione, la scelta spetta solo al Quirinale. 3,5 milioni di bambini a rischio epidemie nel Pakistan, soffocato dal fango, mancano cibo e acqua, cresce la rabbia dei disperati. Il terremoto a Lipari ha provocato frane che hanno sfiorato i turisti in spiaggia. Bertolaso, non rispettati i divieti di balneazione. I docenti precari sono 300.000 e le assunzioni solo 10.000. A meno di un mese dall'inizio delle elezioni si profila lo spettro di cattedre vuote. E sentiamo anche Sky TG24. È morto l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, aveva 82 anni. Domani la Camera Ardente a Roma, funerali in forma privata nel Sassarese. Nelle lettere ai vertici istituzionali le ultime volontà, nessuna autorità alle esequie. Napolitano ricorda Cossiga, protagonista combattivo, prego per lui, dice il Papa. Dagli anni di piombo alle picconate scompare mezzo secolo di storia e di misteri. Bossi stempera la polemica su Napolitano, ma il PDL insiste, Berlusconi o voto. A Lipari nuovo crollo dopo il sisma di ieri, immagini esclusive su Sky TG24. Iraq, kamikaze scatenati a Baghdad, uccise 60 reclute dell'esercito. Alluvione in Pakistan, allarme dell'ONU, 3 milioni di bambini rischiano la vita. Piacere, sono Mario, Bautelli si presenta al City, non sono un bad boy. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene. Ieri sera Bianconi, vice segretario dei deputati del PDL, qui alla Zanzara. A un certo punto se ne esce con una frase, dopo aver spiegato che i giornali interpretano male, che ha dovuto chiedere, tra virgolette, scusa ma non troppo al presidente Napolitano, perché forse il tradimento era eccessivo e comunque la giornalista avrebbe dovuto metterlo in coda e non in testa. Insomma, dopo tutte spiegazioni, non spiegazioni, dice finalmente la verità. Esce fuori con quello che ha dentro. Il presidente l'ha fatta fuori dal vaso. Ha tirato fuori l'articolo 90 della Costituzione, siccome a scuola ci siamo andati tutti, le lauree ce le abbiamo in parecchi, insomma. Io avevo pisciato anche fuori dal vaso, ma il mio è piccolino, il suo è grande grande e mi pare che l'abbia fatta di fuori anche lui, insomma. Eccolo il toscanaccio. A me piace quando a un certo punto si liberano di tutto i politici e si liberano da quello che hanno dentro, se lo tengono, cercano di mediare, di fare i diplomatici, però poi sbottano e allora risentiamolo questo Napolitano che piscia fuori dal vaso perché ha un vaso più grosso del mio, che è un vasino. Io non conto nulla, Napolitano è il presidente della Repubblica, ha un grande vaso, ha sbagliato lui a dire quelle cose. È questo che pensa Bianconi, non la mediazione successiva, i distinguo, eccetera, eccetera. Ha tirato fuori l'articolo 90 della Costituzione, siccome a scuola ci siamo andati tutti, le lauree ce le abbiamo in parecchi, insomma. Io avevo pisciato anche fuori dal vaso, ma il mio è piccolino, il suo è grande grande e mi pare che l'abbia fatta di fuori anche lui, insomma. De Magistris, a me piace quando uno tira fuori se stesso, quando dice la verità, ed è questo quello che pensava Bianconi, che Napolitano avesse sbagliato a dire quelle cose, e a un certo punto l'ha detto esplicitamente. Lasciamo perdere poi i comunicati, le mediazioni, lei lo sa bene che i comunicati ufficiali poi contano poco, no? Ma io sono d'accordo che bisogna dire quello che si pensa, poi si possono dire cose condivisibili, meno condivisibili. Bianconi Certo. Ha detto quello che pensava e l'ha detto in modo appunto chiaro, lei l'ha fatto ascoltare nuovamente, poi hanno fatto marcia indietro, ma quello è quello che pensano molti all'interno del PDL e della Lega, non c'è dubbio. Senta, quando lei invece dice che il PD è complessivamente, leggo dal suo blog, in stato confusionale, per certi versi non pervenuto, anche se la maggioranza della classe dirigente, forte del sostegno del Presidente della Repubblica, ha il terrore del voto e pur di non votare farebbe un ribaltone anche con Totò Riina, con il tronista Costantino. Adesso, per carità, lei ha usato questa immagine del tronista Costantino e di Totò Riina per dire che pur di non votare farebbero di tutto. Dunque anche Napolitano farebbe di tutto pur di non votare. Mi dica lei, mi dica la verità. Beh, sono due cose diverse. Napolitano ha detto delle cose costituzionalmente corrette, come ho detto prima, perché ha il diritto di dovere di cercare, qualora necessario, nuove maggioranze in Parlamento. Il PD dovrebbe, da primo partito delle opposizioni, dare la spallata politica finale insieme a noi, a questo governo e a questa maggioranza. Quindi Napolitano agisce correttamente, il PD io lo vorrei un po' più energico politicamente, con le idee più chiare e con, soprattutto con, dando segnali, come proponiamo noi, di discontinuità e di una nuova classe di dirigente per guidare, per guidare il paese. Se si propone addirittura un governo tecnico con guida Tremonti, lo stato confusionale è quasi un complimento per quanto mi riguarda. Senta, però mi dica una parola chiara, mai con l'UDC, noi dell'Italia dei Valori, un governo futuro, un'alleanza con Casini non la faremo mai. Ma sa qual è il tema? In questo momento. So che in politica dire mai è difficile, però. No, esatto, cioè nel in che senso? L'UDC ha un azionista di maggioranza in questo momento che si chiama Cuffaro. Cioè senza Cuffaro l'UDC non starebbe in Parlamento. Vabbè, addirittura, addirittura Cuffaro è l'azionista di maggioranza dell'UDC. Facciamo i voti, vado a contare i voti, veda, senza i voti di Cuffaro l'UDC non avrebbe raggiunto la quota. Repubblica intervista De Mita come l'ideologo del terzo polo. Cesa non è certo un rinnovatore della politica. Se questo è l'UDC, io ritengo che noi non vogliamo presentare al paese una bufala, ma un'alternativa politica. Con questa UDC, secondo me, un'alternativa politica non si fa, ma nemmeno l'UDC la vorrebbe fare con noi. Quindi, ah, questo, questo non c'è dubbio. Anche Casini dice con Di Pietro mai. Però perciò voglio dire, un matrimonio che non sa da fare, io sono perfettamente d'accordo. Penso anche Di Pietro. Lei dice, pensa però, sospetta che Di Pietro invece potrebbe... Io parlo per me, però siccome sto con Di Pietro in contatto, so che anche lui la pensa così. Io non sono così sicuro su Di Pietro, però lo sa De Magistris. Vabbè, allora diciamo che io la penso così, poi Di Pietro ce lo chiede lei. Perché secondo me, adesso domani ci proviamo con Di Pietro, secondo me poi alla fine Di Pietro con Casini ci starebbe. Questa, io ho questo sospetto, che con Casini ci starebbe. Questo è il mio sospetto, che è lei che mi dice. Ma lei è un analista attento, fa questa osservazione. Io ritengo che sia un errore politico andare in questo momento a costruire, attenzione, un'alternativa politica con Casini. Diverso sarebbe un governo, come abbiamo detto prima. Ma tanto quella è un'ipotesi di scuola impossibile da vedere. Un'ipotesi di scuola sulla quale Napolitano, alla quale Napolitano però sta pensando. Ah, lei dice, Lei dice. Vabbè, ha fatto quell'intervista all'Unità, mi sembra che quella è la sua lettura dell'intervista all'Unità. La sua lettura è che sta pensando comunque a una soluzione. A una soluzione. Lui pensa anche, come dire, deve avere deve guardare un po' al di là. Il PDL è deflagrato, se a settembre non si trova un punto di convergenza, io credo che lui stia pensando eventualmente a una strada da percorrere di quel tipo. E ovviamente una strada di quel tipo devi cercare per forza di mettere insieme Casini, Fini e il resto del centrosinistra, non c'è dubbio. Senta De Magistris, facciamo sempre un'ipotesi di scuola, no? L'ipotesi di scuola è questa. E a un certo punto Di Pietro dice: io faccio un accordo elettorale con l'UDC di Casini. Lei che fa? Esce dall'Italia dei Valori? Resta nell'Italia dei Valori? Me lo dica, sinceramente. È un'ipotesi di scuola, non si verificherà. No, mettiamo che si verifichi, perché secondo me si verifica. Se si verifica. È come se lei mi dicesse: Di Pietro un giorno si sveglia e dice fare accordo con Berlusconi. Ragioniamo di cose che non si verificano. È vero, l'accordo con l'UDC non è la stessa cosa dell'accordo con Berlusconi. L'UDC è l'opposizione, è un'opposizione diversa dalla vostra. È un'ipotesi di scuola, veramente. Non è che non voglio. Ma se dovesse succedere, che fa lei? Fa un altro partito? Esce dall'Italia dei Valori? Perché non ci starà la gran parte del centrosinistra, quindi sarebbe un accordo, come dire, che farebbe solamente Di Pietro e qualcun altro. Siccome Di Pietro è saldamente inserito nel centrosinistra e vuole, come voglio io e tanti altri, un'alternativa politica, sa che questo è un suicidio politico andare a costruire un'alternativa con Fini e con Casini. Parlando di Fini, stiamo parlando di Casini adesso, lasciamo perdere Casini. Fini. Anche Casini, ma lei stanno già costruendo il partito insieme col terzo polo, ma diciamo anche solo Casini, quindi seguendo il suo ragionamento è un'ipotesi che non sta in piedi. La stragrande maggioranza dell'Italia dei Valori non vuole assolutamente questa operazione di palazzo, e siccome Di Pietro è una persona intelligente, la pensiamo allo stesso modo, lavoriamo per costruire un'alternativa al paese, quindi non si verifica. Se si verificasse ci penserò. Se si verificasse ci penserò. Guardi che si verificherà. Grazie, ci sentiremo quando si verificherà. No, spero prima. Grazie a lei, buona serata. Luigi De Magistris, collegamento da Soverato, provincia di Catanzaro. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. La passione di Cossiga per tutto quello che è elettrico, per il materiale elettrico, oltre che per i telefonini, per le tecnologie, per i computer, raffigurata, dipinta, spiegata in questa intervista a un radioamatore. Lasciamo perdere le interviste serie, sentite, eccezionale. Io ho avuto sempre una grande passione per l'elettricità. Ho iniziato costruendo con sfortuna una sedia elettrica per gatti, ma quando ci ho messo dentro il gatto, essendo la corrente allora a 110 volt, è saltato l'impianto di tutto al palazzo di mio nonno e il gatto non è morto. Stefano, provincia di Imperia, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io volevo fare una domanda e chiedergli una considerazione a lei. Visto che tutti quanti parliamo di Cossiga come un servitore dello Stato, una persona diciamo che comunque nel bene e nel male ha fatto la storia d'Italia, cosa ne pensa se dal suo punto di vista se avesse scritto una lettera anche a noi italiani per spiegarci alcune cose, alcune delle cose che sono successe in questi 50 anni? E perché bisogna spiegare tutto, Stefano? Perché bisogna dire spiegare tutto? Io non sono di quelli. Io sono contrario a quelli che dicono bisogna sapere la verità. Chi l'ha detto che bisogna sapere la verità? Su alcune cose non è detto che bisogna sapere la verità. Dove sta scritto? Esistono i segreti, altrimenti i segreti di Stato perché esistono? Altrimenti togliamo tutti i segreti di Stato. Via. No, ma se lei mi lascia solo un minuto le spiego perché. Perché basta, io dicevo questo, non era in senso critico. Io dicevo nel senso, visto che l'italiano come popolo, dal mio punto di vista, non ha ancora avuto il tempo, diciamo così, fisiologico per costruirsi, forse conoscere alcune cose di come dell'impianto generale delle cose, di come una persona al potere debba decidere su alcune cose, non sulle singole cose, ma sul generale, potrebbe aiutare il popolo a crescere anche dal punto di vista del rapporto con la politica. Ma non ho capito niente, Stefano, mi spieghi bene sia anche rapido, non lo spiegare perché... Ma molto rapidissimo, vuol dire ad esempio sul caso Moro ci sono delle cose che non sono state dette perché in quel momento, come diceva giustamente lei, erano delle cose che devono essere tenute segrete per una serie di motivazioni. Guardi Stefano, sul caso Moro sono state scritte centinaia di migliaia, se non milioni di pagine. Milioni di pagine, questo lo dice lei, questo lo dice anche Guzzanti, per carità. Ognuno ha la sua verità, poi, no? Anche sul caso Moro, come per gli allenatori della nazionale, siamo tutti allenatori della nazionale. Ma io vi faccio l'esempio del caso Moro perché... Io non ho capito che cosa chiedeva lei a Cossiga prima di morire, cosa chiedeva? Di farci crescere come popolo. E dunque dicendo cosa? E dunque dicendo spiegando alcune delle cose che sono successe dal suo punto di vista, dal punto di vista di una persona che... Ma guardi che Cossiga l'ha fatto tante volte, ha raccontato la sua versione tante volte, solo che nessuno poi gli credeva perché si pensava sempre che ci fosse qualche cosa che veniva tenuta nascosta. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Siamo qui, 19.33, 800 24 00 24. Intanto i funerali di Cossiga si svolgeranno forse a Sassari, perché il piccolo paesino dove erano previsti inizialmente cremule è troppo piccolo. Bene, anzi male naturalmente. 800 24 00 24. Fabio da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Prima un ascoltatore, parlando della legge elettorale, ha messo in evidenza come questa producesse sostanzialmente un Parlamento fatto di nominati. Il suo suggerimento è stato quello che di fronte alla scheda elettorale poteva scegliere l'una o l'altra coalizione, così, oppure addirittura non votare. A parte il fatto che l'ho sentita spesso criticare il non voto come strumento, cosa su cui sono d'accordo, appunto, votare è utile, ma poi il suo suggerimento non risolve il problema, cioè che io voti l'una che l'altra coalizione, voterò comunque dei nominati, quindi la sua non è una soluzione. Quale la mia? Mi scusi Fabio, quale soluzione? Lei ha detto, di fronte alla scheda elettorale lei ha l'opportunità di votare l'una o l'altra coalizione, ma se in ogni caso voterò dei nominati, non ho una vera scelta. No, non ho detto il questo. Problema, Fabio, non ho detto questo. Il problema è fatto di un Parlamento di nominati. No, Fabio, io non ho detto questo. Ho detto se. Sembrava proprio di sì. Se, invece lei si sbaglia, perché se vuole fare l'esegeta, l'interprete del mio pensiero, qui c'è l'originale. Se vuole, le do l'originale, l'interpretazione autentica. L'interpretazione autentica è la mia. Okay. La registrazione poi lei la può interpretare come vuole. L'interpretazione autentica. Penso che sia d'accordo su questo, che la mia è un'interpretazione autentica del mio pensiero. No, nemmeno questo va bene. Certo, su questo sono d'accordo. Meno male. La registrazione. Ma prende la registrazione, faccia quello che vuole, io dico quello che ho detto. Ok, lei è come Rotondi, le cose che dice valgono soltanto nel momento in cui. Può darsi che sia così, ma non è così. Ok, vado avanti. Allora, io ho detto semplicemente una cosa, caro Fabio. La cosa è questa, molto semplice. Se uno ha davanti una lista elettorale, lista bloccata di un partito, e pensa che in quel partito ci siano truffatori, furfanti, delinquenti, gente messa, gente messa, questo. Lasci perdere, gente messa da altre, mi lasci interpretare quello che ho detto o no? Discorsi che non c'entrano nulla. Io ho detto quello che ho detto prima. Parla, scusi, non ha detto questo l'ascoltatore di prima. Ha detto c'è un problema, vabbè. Il Parlamento è fatto di nominati. Lascia perdere il discorso ladri, farabutti. No, non ha detto niente, Fabio, no, l'ascoltatore di Fabio. Il problema è Fabio, mi vuole far dire quello che ha detto l'ascoltatore o no? Sì, ho capito. Mi vuole far dire quello che ha detto l'ascoltatore o no? Mi vuole far dire quello che ha detto l'ascoltatore o no? Basta che non dica delle cose che non c'erano. No, ma l'ascoltatore, lei non sta dicendo, lei non ha capito nulla di quello che ha detto l'ascoltatore. No, esattamente. Lei di quello che ha detto l'ascoltatore non ha capito niente. Glielo dico io. Perché l'ascoltatore faccia lei l'esigenza di quello che ho capito io. Esatto, benissimo. No, di quello che ha detto l'ascoltatore, di quello che ha detto lei no. Ah, allora, quindi lei fa l'esegeta di quello che ha detto l'ascoltatore. No, l'esegeta, diciamo, me lo ricordo benissimo. L'ascoltatore ha detto Io no, invece. No, lei magari lo ricorda male. Il punto è quello. Lo ricorda male oppure lo ricorda secondo male, le ricorda bene. Secondo quello che vuole lei, insomma. Lo ricorda secondo quello che gli interessa a lei. Allora, l'ascoltatore ha detto siccome vengono anche da altre regioni, mettono candidati che vengono da altre regioni. Io ho detto guardi, può succedere, anzi succede male che mettono candidati con la lista bloccata da altre regioni. No, no, è un problema, ho detto molto male, che vengono messi in lista persone che vengono messe in lista persone che vengono da altre regioni. Uno, se... Ma per lei è un problema? Per me no, sì. Comunque. Fabio, secondo me invece è un problema. Se uno c'ha una circoscrizione, candidano uno che viene dalla Sicilia e lo candidano in Toscana, uno che viene dalla Lombardia e lo candidano in Sicilia, secondo me è un problema. Abbia pazienza, è un problema. Secondo me è una delle cose per cui uno potrebbe dire perché hanno messo questo qua dalla Sicilia o dalla Lombardia? Via, non voto quella lista. E questo suggerivo all'ascoltatore, che uno ha la possibilità... Non voto quella lista e che voto? Ma non vota quello che uno vuole votare oppure non vota se quella lista non gli piace. Abbia pazienza, Fabio. Adesso mi segue, ecco, un attimo seguo, solo. Sì, la seguo. Il corso è, allora che cosa voto? L'hai detto, fa una vota quello che gli pare, perfetto. Ma se tutti hanno fatto delle liste fatte nello stesso modo, vale a dire non di vota, nominati, non vota, non vota. Benissimo, certo. No, non vota, perfetto. Non vota, allora, certo. La prossima volta che sento qualcuno a Radio 24 alla Zanzara che dice no, io stavolta mi sono rotto le scatole, non voto. Ecco, lei non è che mi viene a dire ma questa non è una soluzione. No, ma io chiedo, adesso siamo d'accordo. Io sono uno che va a votare anche con le liste bloccate. Poi non ho mai, non ho detto che chi non va a votare è un criminale o chi non mette la X sul partito è un criminale. Ma non mi ha detto che lei ha detto che è un criminale. E allora? Scusa, no, lei ha detto, lei ha criticato chi fa uso del non voto. Ma nella maniera più assoluta no, lei ha capito male. Lei ha capito male, non è una ho capito male. Sì, esattamente. Io capisco sempre male. Esatto, lei ha capito molto male, Fabio. Mi dispiace, ma io capisco sempre male, lei capisce sempre no, bene. No, io non ho detto che capisco bene, io ho detto semplicemente, io capisco male. No, ma lasci perdere, adesso capisco bene, capisco male. Le unghie che graffiano lo specchio. Ma quale unghie? Ma la faccia finita con questi con queste cose ridicole, le unghie, lo specchio. Infatti io sto ridendo sono cose ridicole, ma non sono nemmeno di cosa stiamo parlando, questo è il punto. Parlando è un'altra cosa. Spesso che capita di non capire di cosa stiamo parlando. Non ho capito da capo, perché evidentemente sono duro di comprendonio, sono duro di comprendonio, mi sembra proprio, lo so. Allora da capo dico, prima l'ascoltatore ha detto c'è un problema perché il Parlamento è fatto di nominati. Sì, okay. Benissimo. Bene, quindi io quando ho la lista elettorale davanti scelgo una coalizione o scelgo l'altra coalizione, sempre dei nominati manderò in Parlamento. Questo era quello che diceva l'ascoltatore. Benissimo, questa lei è la sua valutazione. Ah, bene. No, sì, vabbè, ma lasciami finire. Poi ha detto, ma lei sceglie l'uno o l'altra coalizione. Non è una soluzione. No, non ho detto, lei ha capito male la conversazione con l'ascoltatore, mi dispiace. Ho capito male. No, vabbè, ma è così, ma qual è il punto? Mi dica questa qui, se questa invece che problema c'ha questa conversazione qui. Io ho capito male quello di prima. Lasciamo perdere la conversazione con l'ascoltatore di prima. Mi dica cosa ne pensa lei, così almeno facciamo prima. Della legge elettorale. Ma no, della legge elettorale. Il suo intervento, su che cos'è il suo intervento? Io non l'ho capito ancora il suo intervento, su che cos'è, Fabio? Sul fatto che lei ha detto una cosa priva di un qualsiasi senso. E quale sarebbe? Ecco, appunto, arriviamo al punto. Ancora un'altra volta. No, me allora lo dica. Sei veramente duro di comprendere. Lo so, sono duro di comprendere. Non te lo dico più. E il tuo, ci davamo del tu? No, l'ho fatto io. Male. Molto male. Vabbè, pazienza. Molto male. Che problema c'è? No, non c'è nessun problema, infatti, però dico molto male. Però ho diritto di dire molto male, no? Sì, sì, certo, prego. Molto male, io siccome le do del lei, lei mi dia del lei, se vuole sì, può anche darmi questa del... Questa convenzione qui mi sembra un attimo così, insomma, lascia il tempo che trovo. Beh, ma però la mia ritorno a lei così le faccio piacere. È la convenzione di questa, è la convenzione della trasmissione, se lei non sta bene può... Ah, ok, è la convenzione della trasmissione, sì, non sarà, una sarà una cosa ridicola, però è così, sarà una cosa formale, ma è così. No, io non do del ridicolo, lei no, sarà una cosa ridicola la convenzione, ho detto. No, benissimo, io allora torno sui miei passi e dico... Ecco. Le do del lei così siamo tutti contenti. Ma no, ma non rimaniamo sul punto. Rimaniamo sul punto. Ma non so qual è il punto, io ancora non l'ho capito. Lo so. Allora te lo ridico. Glielo ridico. Scusi. Me lo ridica, sì. Glielo ridico. Il problema è un Parlamento fatto di nominati. Benissimo. Ok. Dunque. Liste bloccate. Liste bloccate. Che non consentono sì. una vera scelta al cittadino. Ma su questo possiamo anche essere d'accordo. Bene, siamo d'accordo, perfetto. Sì. Quindi il cambiare lista, cambiare voto sì. non è una soluzione. No, certo, secondo siamo il principio, secondo, su secondo il principio che, tu, che tutte le liste sono fatte nello stesso modo, non è una soluzione, certo. Oh, benissimo, perfetto. Allora, se, uno si basa, solo su quello, se uno si basa solo su quello. Su che cosa mi dovrei basare? No, sul fatto che gli uno può piacere un partito, un altro partito, eccetera, eccetera. Allora non ha nessun problema lui. Beh, anche lei, penso, se a lei piace un partito, voterà anche con questa legge o no? O non va a votare? No, questo è un problema mio, se vado a votare o non vado a votare, perché non ci casco in questo tranello qua. Ma non c'è nessun tranello, io l'ho chiesto. A lei piace qua del se è lei... andata a votare o non si è andata a votare. Lei piace un partito? No, se a lei piace rimaniamo un partito. Rimaniamo sul punto. No, ma lasci allora, perdere, per lei il innanzitutto... non vota una soluzione? Per lei non vota una soluzione? Ma poi certo, è una soluzione oggettiva, oh, è una soluzione oggettiva. Quindi non vota una soluzione, la prossima volta sì. che sento sulla Zanzara che qualcuno dice io non voto, se sì. sento una critica io ritelefono e poi mi fa parlare, va bene? Fabio, lei ha parlato 10 minuti veramente. Vabbè, ma perché lei mi ha dato lo spazio, mica glielo è stolto. No, per dire, siccome lei mi fa parlare, dire, certo che insomma, la faccio. Non mi dia del ladro, ladro di tempo no, Vabbè, lei Fabio, insomma, sta andando su discorsi che non esistono, per cui non... No, infatti non esistono perché è inutile che dice ho parlato 10 minuti. No, ma perché siccome lei mi fa parlare, ha detto, siccome lei ha detto... Le devo dire grazie, grazie. No, Fabio, vede, sta interpretando male quello che ho detto, non ho detto... Ah, qui non c'è nessuna interpretazione, lei mi ha detto ha parlato per 10 minuti, no, sì, è vero. Ma perché lei ha detto mi fa parlare, ho detto che mi fa parlare... Che problema c'è? Vabbè Fabio, insomma, lei vuole mettere la voce sopra la mia, sa che sono più bravo di lei in questo, per cui non mi sforzo... Ma questo sarebbe da vedere. Non mi sforzo troppo, insomma, non, ma questo non, sarebbe non mi da vedere. No, ma perché sono il master in questa situazione, no? Perché lui... certo, appunto, riattacchi appunto. Se a posto, no, riattacchi... Vede che, vede che non riattacco? Vede, ah, okay, allora quindi che mi dice che ho preso 10 minuti, me li sta dando lei? Non ha capito, adesso glielo spiego in che senso glielo dicevo. Adesso glielo spiego. Siccome lei ha detto io richiamo e dopo lei mi fa parlare. Infatti, sì, guardi, certo. non c'è per nessun problema. In evidenza che lei ha detto. Ma non c'è nessun problema a farle allora, parlare. Se lo avrà fatto. Mi lascia finire. Mi lascia finire. Mi lascia finire. No, mi lascia finire lei, stavo iniziando io. C'è tutta la trasmissione. C'è tutta la trasmissione. Stavo iniziando io a parlare, stavo iniziando io a parlare. Le ho detto, siccome lei ha detto richiamo e dunque lei mi fa parlare, ho detto certo che la faccio parlare, ed è qui da 10 minuti, figuriamoci se non la lascio parlare. Okay. Capito? Era questo il senso. Okay. Tutto chiaro. Tutto chiaro. La ringrazio, buonasera. A lei. Riccardo, provincia di Roma. Buonasera, dottor Cruciani, è stato un piacere ascoltare la sua trasmissione. Scusi, ogni tanto ci sono queste conversazioni. Vorrei recuperare un po' di tempo. Sì. Io volevo soltanto mettere in evidenza il dislivello dell'analisi critica sulle affermazioni del senatore Bianconi e quella dell'onorevole De Magistris, perché viene dato come per un insulto aver parlato di tradimento della Costituzione da parte del senatore Bianconi a un discorso del presidente Napolitano, mentre non vedo la stessa valenza di critica sul fatto che prima l'onorevole Di Pietro e poi ribadito anche dall'onorevole De Magistris abbiano parlato di firma di leggi incostituzionali da parte del Presidente della Repubblica. Ma firmare una legge secondo loro incostituzionale non è un tradimento, anzi peggio, non è uno strappare la Costituzione. Quindi la valenza critica delle due l'una, o è per tutte e due o non è per nessuna delle due, altrimenti non si siete neanche il valore della reazione del Presidente che parla di richiesta di impeachment per una cosa e invece per l'altra cosa niente. Quindi si ha praticamente il valore di una critica si dà non alla sostanza della critica stessa, ma soltanto dallo schieramento. No, Riccardo, però mi scusi, mi sono perso, non ho capito niente. Cioè, lei sta dicendo le critiche fatte da Bianconi sono più o meno simili a quelle fatte da Di Pietro, De Magistris e Napolitano. Sì, può darsi. De Magistris che invece ha fatto delle differenze? Secondo me sì, ha detto che le critiche che ha fatto lui e l'Unione di Pietro sono legittime perché secondo loro il Presidente ha firmato delle leggi incostituzionali, e questo cos'è se non strappare la Costituzione, andare contro la Costituzione? È gravissimo questa cosa, quindi delle due l'una, sono tutte e due gravissime le affermazioni o sono tutte e due legittime? Ma guardi, anche secondo me le affermazioni fatte da Di Pietro e De Magistris sono comunque pesanti nei confronti di Napolitano, quando dicono... Ma la reazione del Presidente non è stata comunque pesante come è stata in questa seconda? Beh no, una volta se n'è uscito anche contro alcune affermazioni dell'Italia dei Valori. Non ha chiesto di metterlo in impeachment eventualmente, però. No, non ha fatto questa cosa con l'impeachment, non c'è dubbio. Però una volta fu, se non due, addirittura molto pesante nei confronti di critiche che gli venivano rivolte da esponenti dell'Italia dei Valori. Comunque voglio tranquillizzare l'ascoltatore di prima che ha chiamato, Fabio, non mi ricordo da dove, guardi, da Bologna, che qui chiunque può dire che non va a votare, non viene mica crocifisso, non viene mica impiccato. Io vado sempre a votare, ma il non voto, il mio ragionamento sul non voto è stato sempre di un solo tipo. Ho sempre detto che non ci si deve lamentare se poi uno va a votare, non si deve attaccare la classe politica in maniera forsennata se poi il tasso di affluenza alle urne è altissimo. 19.46 800 24 0024. Abbiamo l'assessore Eusebio Dalì. Buonasera. Ciao, buonasera. Come sta? Benone. Lei è assessore alla provincia di Palermo. Sì. Che ruolo ha come assessore? Di che si occupa? Ho la cultura e le politiche giovanili. Cultura e politiche giovanili. Allora, lei tra l'altro è quello che cura la rubrica Zanzara sul blog di Micciche, o sbaglio? Punture di Zanzara, sennò Punture di Zanzara, sennò ci copiate troppo, anche perché avete iniziato dopo di noi. Sì. Punture di Zanzara. Abbiamo preso l'esempio, dai, diciamo così. Ah sì, davvero? No, è un caso, giuro. Senta, da lì, però qui insomma, lei ha fatto alcune dichiarazioni su Elite FIBA che stanno facendo discutere, sono su tutti i portali. Sì, anche un po' troppo, devo dire, non me l'aspettavo tutto questo imbarazzo. Glielo spiego, qui alla Zanzara abbiamo fatto una strenua difesa di Morgan contro l'ipotesi che Morgan sia cacciato dalla regione Veneto, come vuole, come pretenderebbe il governatore Zaia e anche il sindaco di Verona, Tosi. Abbiamo avuto anche il sostegno di Mina in questa nostra piccola battaglia. Mina pure ha detto: lasciate perdere Morgan, lasciatelo cantare in Veneto, non è che per uno possa essere impiccato per una dichiarazione che ha fatto, peraltro contestata. E in questo mi trovate comunque d'accordo. Meno male. Che la vicenda di Morgan, per quanto io possa conoscerla, perché la conosco attraverso quello che ho letto e ho sentito, è una vicenda, mi pare, personale, c'è una sua, come dire, un suo jacuzzi personale. E per questo non è giusto che venga crocifisso. Lei però dice che Elite FIBA non devono più, mai più, cantare, esibirsi in Sicilia. Vogliamo far ascoltare? Intanto facciamo ascoltare quello che è successo. Però, questo nel concerto, credo, di non mi ricordo quando, l'altro ieri. Il 13 agosto, qualche giorno fa. Sentite. E poi prosegue. In un contesto storico di continuo cambiamento e di crisi profonda dei valori, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la venerabilissima loggia massonica Propaganda 2, in arte P2, e dando il triste annuncio al suo padre storico Licio Gelli. Licio! E partecipano al dolore la mafia siciliana, l'andrangheta calabrese, la camorra napoletana, Marcello Dell'Utri e naturalmente la tessera 1816 della P2, Papi Silvio Berlusconi. La P2 è morta! Viva la P3. Assessore D'Alì, questa è la performance. Questa è la performance di FIBA. Lo sa come quello che penso io su questa vicenda? Che hanno sbagliato sia il FIBA. Cioè, in un concerto uno può dire quello che vuole, naturalmente, però non capisco perché un gruppo musicale, pare, mi dicono che lo facciano spesso, dovrebbe fare musica, invece comincia a parlare di Berlusconi, di Dell'Utri, di P2, di P3, cose di questo tipo. E vabbè, secondo me già errore in partenza, però un errore l'ha commesso pure lei. Ma a lei che gliene frega di dare questa enfasi a questa roba qui? Lo fanno in tutti i concerti, sarebbe rimasta una cosa così, insomma, limitata. Questo è un errore di comunicazione, però, D'Alì. Io le rispondo dicendo intanto che ha ragione, ma intanto io non credevo di suscitare tutto questo clangore. Comunque, e poi conosco il FIBA, conosco il loro repertorio, so che nei loro pezzi ci sono dei brani, dei passaggi duri da questo punto di vista, però era la prima volta che assistiva a un concerto e non pensavo... Ah, perché lei c'era in quel concerto? Mi scusi, assessore, lei era... Sì, io ero lì. Ma come mai? Perché le piacciono gli FIBA? Tanto per essere chiari, a me piacciono musicalmente gli FIBA, ma io non voglio sentir dire che Dell'Utri ha rotto il CC, perché magari lo avrà anche rotto a qualcuno, non so a chi, ma a me certo non l'ha rotto. Ho capito, per quella è la discussione. Come me, che volevano soltanto ascoltare la musica di FIBA, e comunque al di là del merito, perché vede, io probabilmente questo intervento lo avrei fatto ugualmente, anche se non fosse stato, credetemi, non fosse stato messo in mezzo del Dell'Utri, Berlusconi, eccetera. Non è tanto il merito dell'accusa, è il linguaggio, questo linguaggio duro, volgare, che comunque non aiuta il dibattito, non aiuta... Ho capito, ma i FIBA, mi scusi assessore, i FIBA non devono fare dibattito, linguaggio crudo è normale, sono dei, diciamo, Piero Pelù ogni tanto ama fare il guru, quello che le spara grosse... Non è ogni tanto lì, è ogni intermezzo musicale, ad ogni intermezzo. Piero Pelusa non usciva con frasi del genere. Quindi mi è parso eccessivo. Poi ripeto, prendo atto del suo appunto rispetto al mio errore di comunicazione. Ripeto, non volevo assolutamente, non pensavo che tutta questa mia dichiarazione potesse suscitare questo clangore. Però voglio dire, mi sono sentito offeso nella mia sensibilità politica. No, ma questo lo capisco, questo lo capisco, assessore, che lei si possa essere sentito offeso dal fatto che quello dice Berlusconi è mafioso, Dell'Utri ha rotto il C, eccetera. Non ha diritto Piero Pelù di dire no, ma invece questo. Ha diritto, io rivendico il diritto di Piero Pelù di dirlo, però mi scusi su questo. Perché no? Si prende le sue, ma si prende. Ho capito, ma quella è un'esibizione musicale. Secondo me è un'esibizione musicale incompatibile con questa roba qua. Però questa è una mia opinione. Però rivendico il diritto di Pelù in un'esibizione musicale di dire anche quelle sciocchezze. Questo lo rivendico. Cioè, secondo me sono sciocchezze inaudite che non hanno niente a che fare con un'esibizione musicale. E su questo magari posso possiamo... dire che sono d'accordo con lei. Però lui ha il diritto di dirlo, ha il diritto di dirlo, ha capito? Nessuno mette in dubbio che per lui abbia il diritto di dirlo, nessuno però deve mettere in dubbio che io abbia il diritto di indignarmi. No, ma per carità, ma nessuno mette in dubbio che lei abbia il diritto di indignarsi e di dire la sua, per carità, di sentirsi offeso, eccetera. Però ripeto. E va bene, questo siamo d'accordo, lei ha tutto il diritto di dire che è stato offeso, che secondo lei tanti siciliani, tanti presenti lì, secondo me quelli presenti lì non troppo, ma insomma si sono magari offesi per quelle parole di Pelù. Però la cosa sul fatto che lui non dovrebbe, invito, che cos'è che ha detto lei poi? Invito tutti gli amministratori? No, poi, quello era un po' provocatorio, cioè l'invito ai siciliani a non ospitare gruppi musicali che vengono qui a fare propaganda, ovviamente voleva essere qualcosa anche di provocatorio, perché ci mancherebbe altro. Ma lei ha invitato tutti i primi cittadini della Sicilia a non ospitare più artisti come il FIBA, sostanzialmente. Sì, se devono venire qui a pontificare, ad offendere, ma pontificare offendendo, a istigare senza avere una controparte, mi pare che sia forse un invito conducente. Poi è la mia idea. Mi scusi un attimo, assessore, però la controparte, ma insomma stiamo parlando di un concerto di persone che fanno no, i quello non era un concerto, quello poi si è trasformato in un comizio. No, ma non è un comizio, sulle le cose che abbiamo ascoltato non è. Io c'ero. No, ho capito. Le posso garantire che poi si è trasformato in un comizio. Ma non è, ecco, quello che abbiamo sentito non è un comizio, non so se ci sia stato altro poi, ma non credo. Cioè, quello sì, che abbiamo... poi cominciò a inveire contro il Papa, contro il Vaticano, contro tutto e tutti. Sì, ma quello... ripeto, non parlo del relato, io c'ero. Cioè, secondo lei non c'è stato solo quello, in ogni intermezzo musicale Pelula sparava contro... Adesso non so se fosse proprio ogni intermezzo o ogni due intermezzi, questo non lo ricordo, però le posso dire che gli strali di Piero Pelula erano reiterati. E come le parlo, io guardi, in questo momento le parlo non da fan di Berlusconi, le parlo da ex fan di Rizziva. Che apprezzo musicalmente, ma dei quali non ho apprezzato per nulla questa loro pervicacia nel portare avanti un messaggio violento, con un linguaggio violento contro una parte politica. Però assessore, mentre io posso capire che lei si è rimasto colpito, ripeto, uno deve anche inquadrare qual è la cosa, a parte che conoscendo It FIBA non sarà stata la prima volta che se ne sono usciti con queste cose qui, credo, non lo so, no, non è la prima volta, mi dicono che non è la prima volta, poi lei è la prima volta che li va a vedere, poi evidentemente l'ha sentito per la prima volta. Secondo, ripeto, trattasi di manifestazioni del pensiero da parte di un artista che secondo me devono essere anche un po' ridimensionate rispetto, ora lei dicendo questi qua se fosse per me in Sicilia mai più, insomma lei la porta su un altro piano, se ne rende conto? Ripeto, non la porto su un altro piano, perché ripeto, era questa parte era anche un po' provocatoria. Guardi, avrei anche il piacere di ospitarli a casa mia, iniziva, e fargli una bella chiacchierata con loro. Non è chiaro che era un po' anche provocatoria. Oh, invito ufficiale, facciamolo questo invito, assessore. Facciamolo questo invito. Ma io ripeto, io ho da sempre apprezzato. Sa cosa dico? Che ho cantato tutte le loro canzoni. La distinzione però qual è? E io so che nelle loro canzoni ci sono dei passaggi duri anche contro il sistema, contro la politica, eccetera. Io le canto, e quei passaggi io talmente ho il rispetto per la mia cultura liberale delle idee altrui, che li conosco. Li canto, non sarebbe bastato dire io però ho sentito non solo dei passaggi nelle canzoni, però stavolta no. Siete andati oltre perché avete fatto dei comizi, avete fatto delle cose che non mi piacciono. Questo l'ho capito, l'ho anticipata, ma non sarebbe bastato, insomma, un disappunto personale, non ci vado più io ai concerti di Rit FIBA perché queste cose non mi piacciono, ma i comunicati, via dalla Sicilia, eccetera, eccetera. No, ma guardi, comunicati, su questo lei ha perfettamente ragione, anche perché credo che in Italia ci sia un attimo bisogno di un po' più di tranquillità, sanità, anche nel dibattito politico e non. Dovrebbero chiedere scusa, secondo lei? Io credo di sì, dovrebbero chiedere scusa ai siciliani o a quella parte di siciliani che erano lì, che erano lì e che sentivano dire certe cose da poter ribattere. Sì, secondo me sì, dovrebbero chiedere. Comunque sia, al di là del merito, dovrebbero chiedere scusa per il tipo di linguaggio. Cioè, se io dico di un chiunque esso sia che ha rotto il C, che è un mafioso, eccetera, eccetera, io poi mi sento in dovere di chiedergli scusa. Sia che questo depositario del mio messaggio violento sia Berlusconi, sia che sia Di Pietro, sia che sia il fruttivendolo della strada. Però è sempre un concerto, è sempre un concerto. Senta, ma io la voglio mettere alla prova però. Lei dice, conosco le parole... Tra noi zanzare ci possiamo mettere alla prova. Esatto, mettiamoci alla prova, cerchiamo di non pungerci troppo, altrimenti moriamo tutte e due, rimaniamo... Anche perché d'estate. Appunto, no, ci sono, sa, quelli, come si chiamano, le friggitorie, quelle per le zanzare, no? Esatto. Rimaniamo così. Senta, ma la voglio mettere alla prova, ma davvero lei conosce le parole delle canzoni di Rit FIBA? Sì. Allora, però, me ne accenni uno, adesso non si può sapere. Perfetto, io... La voglio mettere alla prova, via con il Rit FIBA. Nell'agenzia, nella dichiarazione che noi abbiamo mandato poi ieri, ho detto anche una cosa, parafrasando una canzone proprio di Rit FIBA, che è una frase bellissima. Che è veramente bella. E qual è? Tanto bella lei, adesso io la dico, tanto bella lei con Fido, che io quando avevo 18 anni, 17 anni, andavo alle superiori, la scrissi con un pennarello sulla parete della mia classe. Non è la fame, ma è l'ignoranza che uccide. Vabbè, però mi canti qualcosa. No, un incipit di una canzone, no, assessore da lì. Capisco che sono una zanzara, ma voglio dire. No, ma un incipit di una canzone, lei dice di conoscerle bene, mi canti l'incipit di una canzone di Rit FIBA. No, cantare no, le posso citare qualche verso, no, ma anche perché... Verso? Non so, tanto per restare in tema, questa qui è il terremoto, no? Combatti il ladrone, combatti tutti i loro nomi, non è la fame ma è l'ignoranza che uccide, eccetera, eccetera. Vabbè, ma lei non me la vuole intonare un verso delle canzoni? No, non la voglio intonare. Non me la vuole intonare perché non le sa le canzoni pudore, di Rita Fibra. No, perché non le sa. Allora mi intoni un verso di una canzone, lei dice di conoscerla. Guardi, facciamo una cosa, lei mi mette su un disco che io la intono. Perfetto, allora aspetti qualche secondo. 800 24 00. Un disco ovviamente conosciuto, Beh, certo, uno dei più conosciuti. Mettiamo quello più conosciuto dell'Itfiba, quello la deve sapere per forza. Eccoci qui, siamo sempre in collegamento con Palermo. Si trova a Palermo, assessore D'Alì? Sì. Al lavoro, no? Vacanza. Eusebio D'Alì, assessore alla cultura della provincia di Palermo. E però abbiamo i titoli della 7. Dopo 9 giorni di ricovero, Francesco Cossiga è morto alle 13:18 al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva 82 anni. Domani la camera ardente nella chiesa dell'Università Cattolica Sacro Cuore. I funerali in forma privata in Sardegna. 4 lettere indirizzate al Capo dello Stato, al Premier, ai Presidenti di Camera e Senato e l'addio alla politica di Francesco Cossiga, che scrive: onorato la Repubblica con fedeltà. Per più di mezzo secolo Francesco Cossiga è stato protagonista della politica italiana, l'uomo che ha attraversato i misteri della Repubblica. Da Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, a Capo dello Stato, non ha risparmiato critiche a nessuno, tanto da rimanere nella storia come il picconatore. Nessuno sta forzando la mano al Capo dello Stato, così il PDL dopo la dura nota del Quirinale, ma se l'attuale maggioranza non dovesse più esserci, insiste il Popolo della Libertà, si tornerebbe al voto. Pressioni indebite, replica il PD. Solo il Capo dello Stato può sciogliere le Camere, rispetteremo la sua volontà. Nuova frana a Lipari. Dopo il terremoto di ieri, Bertolaso rassicura: l'allarme è rientrato, ma scoppia la polemica sui divieti di balneazione che non vengono rispettati. Non sono un cattivo ragazzo. Le prime parole di Mario Balotelli nel giorno della presentazione al Manchester City, al suo fianco Mancini, che garantisce: sarà un grande. Giro di notte con le anime parse. Assessore? Allora? Io sono il ribelle. Vendimi l'anima e ti mando alle stelle. Vada, prosegua. Non è un esame, però insomma lei mi ha detto il paradiso è una grossa bugia. Non la conosce. Non fate troppo le zanzare. Non facciamo troppo le zanzare, anzi no, mi vergogno. Vada pure, no, l'inizio, almeno l'incipit di è il diavolo, come io si chiama? Di notte con le anime perse. Sì, però come fa il verso? Io di notte, no, non mi faccia cantare a me. Io di notte con le anime perse, eccetera. Vabbè, non vogliamo giocare con la sua sensibilità, vogliamo giocare però con quello che lei ci ha detto. Conosco le canzoni di Litfiba. Sì, le conosco. Vabbè, la ritiriamo questa dichiarazione su mai più i Litfiba in Sicilia o no? La vogliamo ritirare? No, non la ritiro, nel senso che era una provocazione voluta e ripeto. Allora, se vuole io la rettifico un attimo. Mai più i Litfiba in Sicilia, se i Litfiba, poi secondo me ovviamente io poi non sono, se i Litfiba vengono in Sicilia a far comizi. Se proprio vuol far comizi, si candidi. Ah, lei vuole limitare la libertà di espressione di Piero Pelù durante un concerto. Questa è la realtà. No. Voglio evitare che la libertà di espressione diventi volgarità, diventi attacco alla persona. Ho capito, ma poi ci sono i tribunali per quelli, i processi, uno. Poi ci sono i tribunali. Nessuno, non credo che Dell'Utri si metta in testa di citare in giudizio Piero Pelù per un concerto, per stupidaggini che uno può dire in un concerto. Sognerei io. Vabbè, insomma, non siamo arrivati alla conclusione. Li vogliamo invitare questi Litfiba a casa sua per una riconciliazione? A casa mia con piacere. Magari viene lei Zanzara a fare da. Mi sa che non vengono. Va bene, grazie. No, invece mi lascia esprimere. Che cosa vuole esprimere? Non mi faccia comizi? No, mi lascia esprimere cordoglio per la scomparsa di un. Ma noi stiamo cercando di dimenticare, assessore D'Alì, qui stiamo cercando di un po' di, non dico di dimenticare, ma insomma lo sai, abbiamo parlato tutto il tempo di così, che adesso continueremo a parlare tra pochissimo, tra l'altro, però non ci possiamo concedere anche questi momenti in cui parliamo d'altro. Grazie, buonasera. 25 800 24 00 24, voglio farvi ascoltare una cosa. La canzone che abbiamo mandato prima in realtà non è una canzone, è un Francesco Cossiga che intona l'inno d'Italia ed è e lo ha fatto durante una trasmissione con una persona che fra poco avremo in collegamento. Risentiamo l'inno d'Italia di Cossiga. L'Italia, l'Italia se desta. Adesso c'è una frase che io cancellerei. Dell'elmo di Scipio se cita la testa, dove la vittoria le porga la chioma che cadrà. Fu un momento epico durante un giorno da pecora. Claudio Sabelli Fioretti, buonasera. Oh, ciao, ciao Giuseppe. Come stai? Ha fatto impressione anche a me risentirlo, devo dire. Devo dire che io me lo ricordavo, oggi l'abbiamo messo in onda, ci permetterai questa cosa, naturalmente ci consentirai questo. Questo, sì. Ti rendi conto, capito? Cioè, sapeva lui anche... ha fatto era un grande. Senti, quando è nato il vostro rapporto, che insomma è diventato anche negli ultimi anni, non dico intenso perché poi con Cossiga insomma era anche complicato soprattutto incontrarlo, quando è nato questo rapporto? Io avevo fatto un libro con lui, quindi lo conoscevo abbastanza perché avevo passato una settimana in Sardegna con lui per scrivere questo libro, sì. e quindi diciamo c'avevo un minimo di rapporto, poi l'abbiamo invitato, lui è venuto in trasmissione e quasi casualmente è nata questa cosa del DJ K, cioè di questo presidente, ex presidente della Repubblica Italiana, che si divertiva a lanciare le canzoni come fosse DJ Francesco, insomma, no? Tant'è vero che a quel punto noi diciamo ma noi abbiamo un nuovo DJ stupendo, come lo chiamiamo DJ Francesco, ma c'era già Facchinetti, allora ho detto chiamiamolo in qualche... e poi ho avuto fuori questo DJ K col K, quindi proprio che era un suo modo per giocare sulla famosa K, no? Assolutamente, lui era il bello. Io ho conosciuto il Cossiga bello, il Cossiga divertente, il Cossiga cialtrone, quello che si divertiva con noi a fare cazzate, insomma, no? Non a fare, ha cantato Bandiera Rossa, non ha cantato anche Bandiera Rossa. Adesso poi la ripeschiamo. Il libro era Novissime Picconate, è un libro pubblicato da Liberti nel 2009. Sì, no, era il primo, perché poi ne ho fatto un altro, era il primo, era ah, tu l'hai conosciuto in occasione del primo libro. Era il primo era, si chiamava, adesso non mi ricordo più. Due anni prima, credo. L'uomo che non c'è, sì. E lui allora si divertì talmente a fare il lanciatore di musica, e abbiamo scoperto che lui aveva una playlist a casa piena di usava, ecco, ero curioso di questa cosa qua. Qual era la sua musica preferita? Qual era? Michael Bublé, non mi chiedere perché. Michael Bublé, fantastico, grazie che ce l'ha ricordato. Adesso da domani cominceremo una sorta di saga di Michael Bublé in onore di Cossiga. E poi oltre a Michael Bublé qualcun altro ci sarà stato? Guarda, io me ne intendo talmente poco che non me lo ricordo. Ce n'erano tanti, so che lui proprio ci mandava la lista prima in maniera che noi potessimo preparare la rintracciare negli archivi della Rai, ma una volta per scherzo ci ha mandato l'inno nazista, insomma, per dire, nessuno lo conosceva, lui l'ha mandato e via. Lui ti dico, ecco, aveva una cosa che forse al di là di tutti i ricordi politici poi che si fanno in queste ore eccetera, lui aveva una grandissima passione per la radio, questo non c'è dubbio. Assolutamente, gli piaceva moltissimo la radio, effettivamente. Chissà come mai, era una specie, accomunava la passione per i telefonini, per le radio, come dice, per i CB, insomma, no? Sì. Aveva questo studio, ci sono stato, aveva uno studio che sembrava uno studio di regia, praticamente, no? Pieno di una centrale della NASA. Dei telefonini, pensa che le ditte dei telefonini gli mandavano i telefonini perché lui li testasse, praticamente. Aveva non so quanti numeri del telefono, di telefonini, e li dava a tutti credendo di fare una cosa, cioè la gente pensava di avere i suoi numeri, in realtà ne aveva, io nel mio coso ce n'ho 20. Ecco, ultimamente però la piccola sigletta che era l'introduzione al vostro programma, sì. Un giorno da pecora, mi sembra che fosse sparita, no? Nell'ultima non l'avevamo fatta sparire, l'avevamo un po' ridotta perché in realtà Quest'anno noi con lui abbiamo avuto pochissimi contatti. Sì, come tutti, gli, come tutti, sì, certo. Come tutti, perché noi lo cercavamo, ma lui ci faceva dire che non si la sentiva, quindi non come l'anno scorso. L'anno scorso io addirittura sono andato in vacanza con lui in Val Gardena per strappargli quelle registrazioni della che con lui partivamo, no? Che è questa, la facciamo ascoltare, che è questa, sì, qui, sì, che sì. È la voce di Cossiga, che è sempre straordinaria, e soprattutto quando, come dice Claudio Sabelli Fioretti, magari non parla di cose serie ma di cialtronerie, che in realtà poi cialtronerie non sono. Ho appreso con sollievo che riprende la famosa trasmissione Un giorno da pecora, e i conduttori sono Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti. Poi naturalmente ci sarà anche la mia partecipazione come DJ K. Mi raccomando, sintonizzatevi su Radio 2, non leggete i giornali. L'unica trasmissione che vi può arricchire l'animo, la mente e il cuore è Un giorno da pecora. E poi partiva la sigla, insomma io la mando pure perché, come sapete, come gli ascoltatori della Zanzara sanno, è la mia trasmissione radiofonica preferita, che riprenderà purtroppo solo alla fine di settembre. Però Claudio, quanto vi mancherà così, anche se nell'ultimo periodo, insomma, è stato... A dire una frase del genere ho paura di dire un luogo comune, insomma, cioè, ci mancherà perché proprio non ci sarà più, cioè, non, al di là del mancarci nella nostra anima, nella nostra testa, nei nostri pensieri, cioè noi eravamo veramente... Ogni tanto quando era presente ascoltavo delle incursioni, no? Lo chiamavate al volo quando c'era un personaggio che poteva... Sì, sì, sì. Ma poi lui cominciava a parlare con tutti, sapeva di tutto, prendeva in giro tutti, a me lo chiamava il carciofo, ma era veramente... Quindi ci mancherà realmente, cioè non spiritualmente, non, cioè ci mancherà realmente, noi non abbiamo più così, cioè abbiamo perso il nostro più fedele collaboratore, è un disastro, insomma, anche... Senti, il fatto che lui, tu che l'hai conosciuto, il fatto che lui abbia, adesso ti faccio fare una semi analisi politica, il fatto che lui abbia deciso di con delle lettere scritte, lo sai sicuramente, no? Di non avere funerali ufficiali, nessuna autorità, eccetera, sembra una cosa anche molto dura nei confronti delle... dall'altra parte però, nelle stesse lettere, naturalmente... Ma guarda, io ti dico, la prima cosa che mi viene in mente, lui era un narciso. A lui dispiaceva enormemente fare le cose che fanno tutti, quindi l'idea di fare questa io la vedo proprio come una maniera per differenziarsi da qualsiasi altra, cioè l'idea che lui usciva che il feretro uscisse dalla chiesa e la gente gli batteva le mani, secondo me gli venivano i brividi, e quindi io la vedo così, insomma, non... Lui è uno che non era uguale a tutti gli altri, nel bene o nel male, perché poi anche nel male, non dimentichiamoci che non è che sia stato un uomo senza ombre, no? Certo, non, certo, certo, però ecco, tu la vedi come una cosa narcisistica questa scelta? Assolutamente, qui. Sì, sì, sì, la caratteristica principale sua era questa, era di essere narciso, di voler apparire, lui faceva un lancio ansa al giorno praticamente, infatti noi abbiamo capito che stava veramente male, che non si stesse tirando indietro, quando abbiamo visto che non c'erano più lanci ansa, questo per lui era come scomparire del tutto, era come morire veramente. Grazie a Claudio Sabelli Fioretti, grazie, ciao, di essere, ciao, stato, ciao, con noi, ciao, a presto. Eccoci qui, 20:14, era andato un attimo via pensando che l'intervallo fosse più lungo, ma abbiamo sempre la sigla, abbiamo sempre qualcosa da mandare in onda, non vi preoccupate. Danilo da Genova. Pronto, mi sente? Poco, Sergio da Napoli. Eccomi. Dica. Io intervengo per l'intervento di De Magistris. Sì, un attimo solo, sentiamo Panza, sì, su Cossiga. Niente. Ma mi è capitato anche di scriverlo e di dirlo. Io considero... Non considero Cossiga un democristiano, Cossiga è sempre stato un anarchico liberale, quindi di quelli pacifici che non tirano bombe, non sparano rivoltellate o tutt'al più tirano qualche sasso nei vetri. E lui è sempre stato in questo modo, era un signore bizzarro, molto intelligente. Vi ricordiamo tra l'altro Giampaolo che Panza su Cossiga. Allora Sergio, cosa ci voleva dire? Eccoci, io volevo semplicemente da Napoli, perché seguiamo molto De Magistris in quanto possibile candidato sindaco della città, oltre che premier, non ancora deciso. Premier addirittura. No, appunto, lei ha letto i giornali, si è autoproclamato qualche giorno fa, però il discorso non si è autoproclamato, ha detto se me lo chiedesse Di Pietro, esatto, potrei detto, eccetera, ma eccetera. È uscito in questo modo. Lei ha detto una cosa verissima sulla verità. Noi vorremmo verità dai politici. Ora io le leggo, sono tre battute sul blog di De Magistris, alcune cose che non sono tanto generiche su Napolitano, le leggo subito, e noi abbiamo un'associazione Napoli Punta a Capo e le denunciamo anche a tutta la stampa locale. Le dica Sergio, le dica. De Magistris, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato uno dei leader della corrente migliorista. Vennero coinvolti miglioristi nelle indagini della magistratura napoletana avente oggetto la realizzazione della metropolitana, una delle indagini più illuminanti circa il sistema corruttivo che coinvolgeva la politica. Le indagini portarono all'iscrizione nel registro degli indagati anche dell'allora Presidente della Camera Napolitano. Il Presidente della Repubblica è quindi persona inserita in un certo modo di intendere la politica, quella politica che va profondamente cambiata senza se e senza ma. Sta avallando l'attuazione del piano di rinascita democratica ideata da Lucio Gelli e oggi realizzato dal premier fiduista Berlusconi. Ho chiuso quasi, sempre virgolettato, un presidente che non ha volutamente difeso magistrati impegnati in prima linea nel sud contro la criminalità organizzata e la corruzione e che non ha impedito che venissero illegalmente fermate indagini che stavano portando alla luce la nuova P2. Io voglio dire solo una cosa, qua si è parlato di vasi, ma questo è un vaso del diametro del cratere del Vesuvio. Insomma, queste cose qui non sono uscite, ora non è più... No, ma lei ha ragione Sergio, ha fatto bene a ricordarle, io non ricordavo nemmeno, anzi non le avevo notate nemmeno sul blog di De Magistris, non so dove, queste cose molto pesanti nei confronti di Napolitano, ma sa, ogni tanto non si può guardare tutto, non si può annotare tutto. No, ma non lo dicevo per voi. Carità, è evidente che De Magistris pensa tutto il male possibile di Napolitano, non solo per le cose che riguardano i miglioristi negli anni 80 e 90, per quello che riguarda la P2 non lo capisco. Nel caso della protezione dei magistrati si riferisce, credo, alle vicende sue personali con il CSM eccetera eccetera, con le varie vicende seguite alle ipotesi, alle inchieste Why Not. Siamo qui 20:18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Fabrizio da Modena. Fabrizio, mi sente? Sì, io lo sento, lei mi sente? La sento, dica. Benissimo, buonasera, grazie per avermi fatto intervenire. Volevo fare un accenno in merito alla questione di prima del concerto di FIBA, non tanto perché io fossi presente, sono a Modena, non ero in Sicilia, ma sono stupito dei suoi pensieri in merito al fatto che sia possibile utilizzare certi toni in contesti che non lo meritano, come quelli che ai quali accennavate prima. Mi scusi Fabrizio, io ho detto che secondo me se poi le cose vanno prese sul serio, quelle che dice Piero Pelù sono delle stupidaggini dette in quel modo, con quei toni eccetera eccetera, però metto tutto in un contesto che è quello di un concerto, di una persona che si sente un guru, di un gruppo musicale che fa anche della provocazione il suo timbro, e dunque dico semplicemente che ha il diritto assolutamente di fare quelle cose, di dire quelle cose anche durante un concerto. Uno un concerto lo fa come vuole, lo fa invendo contro le persone, poi se le persone si sentono offese vanno dal magistrato. È un continuo, non so se lei legge, anzi sono sicuro che lei legge i giornali, è un continuo di non fare altro che chiacchierare, che discutere in modo non costruttivo su affermazioni, toni, da gossip quasi. Ma chi è un continuo mondo. Chi? Ma ho capito, quelli sono elite FIBA, non sono degli esponenti politici, sono dei cantanti. Ma le persone che erano presenti a quel concerto, a fronte di quella affermazione, ho capito, se si sentivano offese uscivano. Ma come, lei lo sa benissimo che non potevano uscire. Ma come no, mica sono in galera, mi scusi, mica sono dentro... No, ma non è questione di andare in galera, è questione di avere un contesto e dei contenuti in tutto quello che si fa. Ho capito, Fabrizio, senta, il punto... Questo malumore che c'è in Italia. Ho capito, ma che cosa vogliamo fare? Vogliamo proibire a Litfiba di cantare? Non ho capito, qual è la sua ricetta? Qual è la sua indicazione? Loro devono cantare. cantare, fanno bene a farle. E allora, di cantare, di fare... Per che motivo fare certe affermazioni e con quel tono? In un contesto che non è assolutamente quello adeguato. Fabrizio, uno in un concerto fa quello che vuole. No, e dice quello che vuole. Risponde eventualmente di fronte ai magistrati. Ma allora che così è tutto un dare lavoro ai magistrati e agli avvocati? Ma che significa dare lavoro ai magistrati? Allora, l'alternativa qual è? Mi scusi Fabrizio, un'ordinanza comunale in cui si impedisce, a Piero Pelù di parlare? Non di questi toni. No. Di questi, Fabrizio, mi scusi. Fabrizio, mi scusi un attimo. Io ho detto l'indicazione pratica, concreta, qual è il rimedio a questa cosa? Il rimedio è quello di tenere bassi i toni. Ho capito, ma se quello non li vuole tenere bassi, cosa facciamo? Beh, la sua trasmissione è un'occasione importante per fare di nuovo presente questo, non dare adito a queste affermazioni che rischiano di dare campo a tutti di poter fare questi avversari. Ho capito, Fabrizio, mi scusi. Questo non è costruttivo. Se non sarà costruttivo. Ma i Litfiba non devono costruire nulla, i Litfiba non devono costruire niente, dicono quello che vogliono, dicono anche delle enormi stupidaggini, ma dicono quello che vogliono. Ma non abbiamo solo bisogno di costruire, la sua trasmissione sarebbe un'occasione importante. Lasci perdere la mia trasmissione, stiamo parlando di un'altra cosa, del concerto dei Litfiba in Sicilia. Ed è un'occasione secondo lei corretta per fare certe affermazioni e con quei toni? Io non c'ero, ho ascoltato prima quello che diceva chi c'era, poi non so se è vero o se non è vero, ma se fosse vero che sono stati utilizzati quei toni mi sembra questo assolutamente sbagliato. Vabbè, d'accordo. E ci sarebbe il modo di dire cose molto più interessanti e con toni diversi per far crescere mi arrendo. Da questa situazione. Mi arrendo, grazie Fabrizio. Grazie, Sergio da Napoli. Allora, Sergio, che mi stavo dicendo? Mi avevate richiamato per io avevo parlato di quelle parole che di De Magistris, allora, secondo lei questa sera De Magistris è stato troppo moderato su Napolitano? Ma assolutamente, secondo me, cioè se è il suo concetto, quello che ha espresso sul blog, io ho letto praticamente le sue parole. Dovrebbe anche lui avere il coraggio di iniziare una procedura di impeachment nei confronti di Napolitano. Io penso che queste motivazioni sono molto più forti di quelle che abbiamo sentito nei discorsi e quindi diciamo anche mi sembra veramente poi come posso dire un'offesa almeno per persone che immaginano che quando lui si spende per la moralità, per l'etica, per un certo tipo di ragionamento poi vediamo una contraddizione nel non essere coerente. La coerenza imporrebbe che lui ripetesse queste cose oggi e magari nei prossimi giorni le facciamo ripetere. Sergio, perfetto, non ce l'avevo presente, mi mandi una mail con quello che gliela manderemo. Gcruciani@radio24.it. Grazie. Federico, provincia di Lecce, buonasera. Salve Cruciani, salve. Dica. Senta, no, io volevo giusto intervenire sul fatto dei Litfiba. No, giustamente una cosa. Allora, è dal 1968, sono 42 anni che il rock assume questa figura di controparte verso chi ha il potere in quel momento. Io sono d'accordo con lei. Posso dire che io considero questa cosa un'enorme stronzata, sì. No, poi... non è vero, ma il rock è fondato anche su questo. No, non sto dicendo che è un'enorme stronzata il fatto che si possano esprimere, sto dicendo semplicemente che poi alla fine, insomma, mi sembra che non è questo. Mi scusi, parte del rock, non voglio dire tutto, però parte del rock lascia dei messaggi, come dire, anche politici, antagonisti contro chi rappresenta il potere. Sì, per carità, lo trovo nella storia una cosa che fa parte della storia del rock. Io penso che i contenuti poi siano una stronzata pazzesca. Esatto, ma al di là dei contenuti, però questa è la storia del rock. Non capisco perché, cioè i Litfiba lo fanno da 20 anni, lo fanno da 30 anni, anzi, il discorso, diciamo, contro il potere, contro chi rappresenta il potere. Perché adesso sta uscendo fuori tutta questa cosa? Ma è un concerto, io sono d'accordo con lei, i Litfiba possono dire quello che vogliono, se uno gli piace i Litfiba, se uno li segue, sa che cosa dicono e sa che come la pensano, se li piacciono se li fa vedere, se non li piacciono non se li fa vedere, punto, questo è il punto, non c'è nessun messaggio politico, non c'è nessuna violenza, anzi, io credo che siano molto più violente determinate espressioni in un altro contesto, quanto può essere in un contesto politico, no? Cioè quando si accusa una controparte, che ne so, comunista o che ne so. Adesso non facciamo paragoni. Non c'è violenza. Io sono d'accordo con lei. Non c'è violenza. C'è un linguaggio molto crudo, molto diretto, molto tranciante. Ma questo fa parte, insomma, come dire, di una band musicale. Ma quello che le sto dicendo, cioè tutto questo scandalizzarsi non esiste, perché il rock è così da sempre è stato. Credo che sia più preoccupante un messaggio simile del genere da chi dovrebbe avere una certa credibilità a livello politico, e parlo di tutte e due le parti, parte sinistra e parte destra, chi accusa l'altro comunista, chi accusa l'altro mafioso, cioè questo è quello il messaggio che vorrei dire. È più preoccupante questo il discorso, non tanto Piero Pelù che accusa quello di essere mafioso, cioè non voglio dire che sia folcloristico, però no, certo, quasi certo. Così. No, no, cioè, è assolutamente folcloristico, sì, cioè, è puro folklore, lei ha ragione, puro folklore. Cioè, non trovo il motivo, la pietra dello scandalo, ecco, non trovo il motivo. Grazie, cioè, grazie. Gianluca, provincia di Roma, buonasera. Buonasera. Senta, Crucia, io ho chiamato perché per dire due cose su Cossiga. In pratica, mi sembra che in Italia quando muore qualcuno pare che sia sempre santo quando muore, no? Questo sicuro. In effetti io mi ricordo una cosa in particolare di Cossiga, una trasmissione che fecero a Sky TG24, che c'era lui, Palamara dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lo ricordo, finì in una querela anche qui su Radio 24, Cioè veramente io vedevo quell'intervista, il tonno Palmera e c'è la faccia, Madonna, la faccia, una maleducazione, una cosa mai vista. La maleducazione di Cossiga nei confronti di Palamara, lei ricorda quella roba lì? Certo. Fu molto duro nei confronti di Palamara all'epoca, capo dei magistrati. Sì. La figura peggiore la fece la giornalista, perché quando il giornalista non è in grado di gestire certe situazioni. Maria Latella, sì, lo ricordo, su Sky TG24. Comunque così, allora, ecco. Quello volevo dire a questo. No, va bene, Gianluca, ma noi, per carità, mica siamo buonisti, Va bene, lei che ricorda anche un episodio in cui, secondo lei, Cossiga fu maleducato nei confronti di una persona. Certo, perché appunto, come dicevo, vedo questo atteggiamento che in genere in Italia... Ma quando una persona muore, è evidente che subito, all'inizio, il primo giorno, non si ha il coraggio di... Anche quelli che sono i suoi nemici non hanno il coraggio di venire fuori, no? Massimiliano, provincia di Salerno, buonasera. Sono venuto fuori io. Dica. No, dico, sono venuto fuori. Lo so, e allora mi dica qualcosa su Cossiga. No, io in verità non l'ho chiamato, prendevo spunto da Cossiga, ma soprattutto da una sua affermazione che ha fatto qualche mezz'ora fa sulla questione della verità. Sì. Del perché non si può sempre dire la verità. Io francamente l'ascolto sempre, sono un abitué della sua trasmissione. Sì, sì. Litigo spesso virtualmente con lei via mi dica che cos'è che non va in quello che ho detto. Non capisco perché non si possa, uno Stato democratico non possa, che si fonda su delle istituzioni democratiche, non possa dire alla propria popolazione, al proprio popolo la verità su ciò che accade. Massimiliano, io non sto parlando naturalmente di stragi, di morti, eccetera. Sto parlando del fatto che uno Stato conserva sempre un patrimonio di segretezza, delle notizie che tiene segrete, segreti militari, segreti di vario tipo. Questo è inevitabile ed è forse anche giusto che sia così. Dobbiamo chiudere, però ne parliamo se vuole domani. Chiudiamo in questo modo, con Cossiga che canta l'inno italiano. A domani 18 con la Zanzara Estate. Italia, l'Italia se desta. Adesso c'è una frase che io cancellerei. Dell'Elmo di Scipio se cita la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma che cadrà. Pa, pa, pa.